Pronto? Antò? Chi è che chi parla? David Parenzo. Oh, ciao, ciao David, come stai? Marimortaccia, bene, bene, sono qui con Giuseppe, volevamo farti un'intervistina al volo. Quando? Quando adesso, vuoi? Adesso, quando adesso. Vuoi? Adesso non si può perché sto aspettando che arrivano quelli del TG2. No, ma due secondi. Facciamo due minuti adesso, quando arriva chiudi, chi se ne frega. Poi no, no, mi sto avvertendo. Guarda, prova a richiamare fra 10 minuti eventualmente. Antò, quando c'è l'intervista? Perché sta cosa ha visto di Tajani. Ma come sto avvertito? Prova a richiamare fra 10 minuti. Ma che stai nudo in casa, scusa, non ho capito. Ma fatta i cazzi tua, no, va, va, culo. Io non lo so. Ti pare che uno stia... La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Io me ne frego del coronavirus. Un po' di febbre. Qui muoiono migliaia di persone. Me ne frego! Siamo noi, sì, noi che qui siamo soli qui, noi. Me ne sì, frego! Soli qui, fai di me quel che vuoi, sono qui. È un bluff il coronavirus! Un tranello! Ci vogliono impaurire, credetemi! Danno delle cose che mi... Di infami! Ci son cascato di nuovo. Ci son cascato di nuovo. Si sia un gioco. Vedermi prendere fuoco. Tu devi finire di scassarti la minchia. Ci son cascato di nuovo. Tu sei mia, tu sei più. Già lo so che poi lì che non so più poi chi trovo. Pronto? Pronto, il virus è sempre in agguato. Che vi colpisca mortalmente. Da Michele Croso a fanculo, badani. Fallo davvero. Ma c'è anche quello coglionazzo di Parenzo, eh? Omosessuale represso e frustrato. Oh sì sì, me ne frego. Me ne frego. Parenzo, dimmi una bugia, me la bevo. Qui una che ci fu dai, no? Si sono ubriaco ed annego. Oh sì, me ne frego davvero. Davide, sì, me ne frego. Ancora. Schifosi sudici, andate a tossire a casa vostra, persi di merda. Ci infettate anche tutto. Fate schifo, persi di merda. E sti cazzi! I love you. And it's a mistake. You're a habit. Barisoni gay. Everything you do is so fucked up. But that's the reason that I'm stuck. Perfetto. Qui si continua, caro Parenzo, a trasmettere tranquillamente dal bunker di Milano, eh? Ti trasmetto dal bunker di Milano, dalla zona non ancora rossa, la zona gialla, denominata zona gialla, non zona rossa, non zona rossa. La cosa che io... La zona gialla di Milano. Tu auspichi, cioè no, tu no, ormai no, ma... sogni la chiusura di questa trasmissione sì. No, tramite cosa... coronavirus. Voglio dire una essendo cosa... Essendo lei stessa coronavirus, sì. Tu, sì. Tu preferisci la chiusura una... della trasmissione. Voglio dire una cosa molto netta, molto semplice, poi ne ho altre due, sì, da dire poi mi taccio fino alle 20:50 perché non ho niente da dire, ma una cosa voglio dire. Non hai niente da dire. No, alcune uno cose viene da trasmissione dire. Non ha niente sì, da dire. Però c'è l'unico motivo per cui uno fa un'emissione sì, radiofonica sì, è perché sì, ha qualcosa da dire. Oggi ma prego, prego, vai, non vai, frega, vai, vai, vai. Prima cosa che però voglio dire è questa. Sì. Stanno chiudendo tutto, il governo ha deciso di chiudere scuole, teatri fino sì, al 15 di marzo. Quindi sì, i nostri figli staranno ridicolo, a casa. Perché, i nostri perché figli non dovete staranno dire a casa direttamente 30 marzo. Marzo? Sulla scuola si stanno impicciando. Prima sì, poi no, prima poi sì, forse. Fate annunci notizia... quando dovete farli, non benissimo, a cazzo di cane. Questa è la polemica dai, di Cruciani, ma non è questo il tema. Le scuole quindi saranno chiuse fino al 15 di marzo, adesso è ufficiale. Scuola, università, tutto, in tutta allora, Italia. Allora io mi chiedo, cari amici del governo, sì, avete chiuso le scuole, l'università, perché l'unica cosa che rimane accesa, aperta, a infestare dalle 18.35 fino alle 20.50 tutte le sere, diffondendo falsità, menzogne, insulti neonazisti, neofascisti, complottisti, gente che dice che il coronavirus l'hanno inventato gli americani, insomma, deliri. Perché questa cosa che è nociva, che è una trasmissione radiofonica, che è molto seguita, d'accordo, ma è nociva, perché, ebbene, questa rimane attiva e accesa? L'unica domanda che io voglio fare è questa. L'unica domanda. Caro Parenzo, la risposta è questa: esiste, che tu ne dica, che tu ne pensi, la libertà di espressione. Sì, la libertà di espressione. E nonostante quello che dici, secondo, tu, esiste la libertà di espressione. Seconda considerazione, poi me ne sto zitto. Sì, il quotidiano libero. Uno poi dice la fissazione. Allora, l'apertura del sito di Libero è: cifre pesantissime. Ieri avevano detto passiamo l'attenzione, non c'è problema, eccetera. Oggi cifre pesantissime. 28 morti in un giorno. Ora è panico. Libero. Attenzione, andiamo avanti. Hashtag parla libero. Tasche vuote o bare piene. La sentenza di Feltri. Ma ragazzi, è un giornale dove c'è da toccarsi a pelle proprio. A pelle. Adesso il problema di queste settimane, però, è tutto un appello. In questi giorni il problema non è libero. Giorno, ora è no, è anche libero. Certo, il problema è anche libero. Io infatti ho incontrato oggi il tassista, l'autista cinese di Feltri. Oddio, incontrato. Ancora, ma che hai incontrato dove? Dottore, che cazzo dici? Dai. Dottore Feltri, anziano, pericolo coronavirus, meglio stia a casa, non fa giornale, dottore, meglio chiudere il giornale. Ho detto, direttore Feltri, direttore, non fa giornale, che dici sciocchezze, direttore, vai Baletto Baglioni. Ma ti pare che uno si tiene un cinese, dai. Lo osservo, lo aiuto dappertutto, lo aiuto tutto il giorno, lo seguo. Va bene, allora iniziamo con una cosa. Don Fanzaga, iniziamo con Don Fanzaga, ci dobbiamo anche un po' divertire, ragazzi. Sai che io però mi sono portato, cioè il pulisci, non dico di che marca, ma lo vedi qui, c'ho il mio. Ma chi se ne frega? Ancora lo vedi, questa, no? Cos'è? Lo vedi? Pulirsi le mani? Che cos'è? Ancora queste stronzate, pulirsi le mani, disinfettante. Poi mi piace anche questa cosa, che si sta a un metro di distanza e quelle fastidiose persone, ecco, che in posso genere... dirti questa cosa qua? Ho saputo che molti baristi qui al nord sono stati multati. Uno mi hanno detto qui a Milano di 700 euro, perché hanno servito al banco. E non ha rispettato la legge, sì. No, ragazzi, amici miei, bisogna avere anche un minimo di decenza. Io, un vigile urbano si dovrebbe vergognare. Cioè, un vigile qui urbano, non è che si scherza. La le forza pubblica vanno che multa un barista perché serve a un tavolo, non in un assembramento, semplicemente per fare cassa, ragazzi, o per rompere sanitario. Le scatole. Non si problema possono rompere le scatole a un barista perché magari serve un caffè al banco. Sì, ma non è un gioco. Sì, ho capito, ma non puoi fare la multa a un barista che già in questi giorni non incassa un cazzo, o a un commerciante perché uno va a prendere un caffè al bancone. Ma ragazzi, ma di cosa parliamo? Dai, su. Un metro e mezzo, va bene, d'accordo, ma uno non può fare le multe. Uno cerca di farlo rispettare, anche le singole persone ci dovrebbero pensare, no? Ma non è che puoi fare le multe. Tu, vigile urbano, o come diavolo ti chiami, pizzardone a Roma o in altri posti, tu, polizia locale, non credi che carabiniere la polizia, non puoi fare la multa a un commerciante. A un commerciante che già ha il 10% dei clienti qui al nord. Fai pure le multe perché uno serve un caffè, magari senza pensarci, un caffè al tavolo, ma è una vergogna, dai. E no, lui sta dalla parte di questi qua che fanno le multe. E Parenzo, certo, sta dalla parte, no, di questi qua. Ma che bisogna rispettare le leggi. Cioè, qui è un problema di sanità pubblica, capito, di salute pubblica. Ma non c'è ma non un è gioco. Uno scappato dalla zona rossa per andare a infestare gioco. Altre parti. Ci sono delle regole da rispettare. Bene, non per si può esagerare. Tutti. Su, Don Fanzaga, dai, fammi sentire esagerare. Don Fanzaga, dai. Dice che l'apocalisse è cominciata e poi. Cioè, con la crisi evidente che è nata dalla scoperta della pedofilia, che ha toccato una buona parte del clero, non dico quanto, ma certamente allora? Una parte del clero significativa in questi, come ha detto bene Benedetto XVI, dal 1968 in poi, da quando è scoperta la rivoluzione sessuale, che è successo? Anche la pedofilia e l'omosessualità si sono sdoganate. E quindi questo ha portato ovviamente a un discredito del sacerdozio che si è manifestato anche nel fatto che nei seminari si sia sempre meno sacerdoti, meno vocazioni. Non ho mai incontrato un pedofilo. Cioè, sta cadendo giù il mondo e questo signore dai microfoni di Radio Maria parla di omosessualità e di pedofilia. Ma tu ti rendi conto o no? Una follia. Cioè, dicendo che l'apocalisse è cominciata, che questo qua è un segnale di Satana, perché dice che è un attacco di Satana. È un attacco, ma cosa è un attacco di Satana? Sì. Cosa? Quale Satana? Al limite dei pipistrelli. Questo è l'obiettivo di Satana. Qual è? Un attacco alla Chiesa gerarchica, attraverso il discredito dei pastori della Chiesa, che sono Matteo del Basso, i diacoli, i sacerdoti, dice la cosa. I vescovi, i cardinali e il Papa. Cosa dice? Non ne posso più di Panzaga, passa da, una, da un argomento all'altro, una cosa pazzesca, dai. Ora voglio farti osservare che oggi online, sulla rete, sull'internet, è stato molto esaltato. Molto esaltato un discorso dell'allenatore del Liverpool, Klopp. Non so se hai notato. Ho visto. Al quale è stata fatta una domanda. Secondo me è stata fatta una domanda anche legittima, posso dirti? Invece tutti a dire: ecco, una persona responsabile, bravissimo come ha risposto, applausi, eccetera. Perché quale sarebbe la domanda legittima? La domanda legittima è stata: voi come state vivendo? Siccome anche in Inghilterra si parla di chiusura del campionato, sospensione delle partite, un giornalista, giusto. Provvedimento che tu hai criticato e che per fortuna è stato attuato quasi da subito. No, non ho mai criticato. Subito. Un giornalista legittimamente ha chiesto: scusa, com'è che state vivendo voi questa cosa, questa possibilità all'interno dello spogliatoio, eccetera. Lui ha risposto: non è a me che dovete fare queste domande, agli esperti. Non è che una persona, l'opinione di una persona famosa non conta nulla, ma è una domanda legittima. E tutti a esaltare Klopp: bravo, non è un tutologo, è una puttanata. Infatti, la domanda era risposta. Legittima è una bella e lui risposta. Voleva fare bella figura, punto e basta, dai. È una bella risposta. Look, what I don't like in life is that a very serious thing, a football manager's opinion is important. I don't understand it. I really don't understand it. It could ask you. You are exactly the same role than I am. So, and it's not important what famous people. What famous people say. No, you have to. We have to speak about the things in the right manner. Not people with no knowledge, like me, talking about something. But people with knowledge should talk about it and should tell the people: do this, do that, do this, and everything will be fine. Allora, ve la traduco in maniera molto semplice. Così dice: le persone che hanno conoscenza devono parlare, non è detto che una persona famosa come me non debba avere qualcosa da dire su questo argomento. In generale è giusto, ma non è che ti hanno chiesto: scusa, qual è la differenza tra il coronavirus e l'influenza? Qual è, da dove viene il coronavirus? Ti hanno chiesto come state vivendo voi, dato che si parla della sospensione del campionato. Giustamente ha risposto con responsabilità in questo modo. Ma poteva dire tranquillamente: quando ci sarà il momento che prenderanno una decisione, rispetteremo le decisioni, senza fare la lezioncina su una persona famosa che risponde di qua o di là. Invece tutti a battere le mani. Ma vaffanculo, va. Fermi tutti! Toc toc! La zanzara. Zanzarosi, giornata difficile, eh? Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171 701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio. Dovete sapere come va a finire, che la perdita di un figlio per quella famiglia lì è la manna dal cielo, perché sicuramente salterà fuori che ha sbagliato il carabiniere, riceveranno una lauta, ecco, indennizzo da parte dello Stato, e questi camperanno con l'indennizzo dello Stato che pagherà per un figlio morto, e questi smetteranno di piangere, anzi poi trasmissioni televisive, interviste, forse già che anche un libro, vedrete che cazzo succederà, e quel povero carabiniere verrà crocifisso, verrà lapidato, vedrete, finirà così. Allora torniamo sul caso di Napoli, le novità sul caso di Napoli del quindicenne rimasto ucciso durante una rapina, no? E tutte le polemiche, eccetera, eccetera. Ieri ci sono pensavo state. Pensavo che volessi parlare dell'altro caso clamoroso di queste ore. Che cosa? Della rinuncia di Bloomberg alla corsa per la Casa Bianca. Ma che cazzo che gliene frega gli italiani in questo momento delle elezioni americane? Giustamente non frega un cazzo. Della più grande democrazia del mondo, vabbè, è un fatto senti, che ci deve interessare. L'avvocato del complice. L'avvocato del complice, 17enne, dice: quello era un colpo per andare in discoteca. Vabbè, un colpo per andare in discoteca. Delirio, ragazzi, dai. Si è parlato che il colpo sarebbe stato messo a segno per avere dei soldi per andare in discoteca o da ballare. Questo è stato dichiarato, sì. questo è stato dichiarato, questo almeno lo posso dire. Il cugino invece di Russo, di Ugo, del ragazzo ucciso, dice che il carabiniere, se gli punti una pistola a giocattolo, deve capirlo. Forse questi non hanno capito bene una cosa, magari dopo lo faremo capire meglio, che la pistola non è una pistola a giocattolo, non è una pistola a giocattolo, è rimasto abbastanza confermato. La stessa pistola, ovviamente non reale, vera, cioè non può sparare proiettili veri, è una pistola metallica, una replica che spesso viene utilizzata in altri contesti, che dunque ti appare esattamente, appare una beretta anche 92. Il rumore, pare, lui abbia detto addirittura che aveva sentito il rumore del... Non lo so ragazzi, non puoi distinguere nulla, come cazzo fai a distinguere una pistola vera da una pistola praticamente tamburo, uguale? Scusami. Dai, su, comunque il cugino la pensa così, che un carabiniere deve saper distinguere. Non sapete di cosa stiamo parlando, sapete solo che mio cugino ha fatto una rapina e il carabiniere l'ha dovuto sparare per paura, perché aveva paura che lui sparasse. Ha visto la pistola che era giocattolo, un carabiniere, se gli punta una pistola a giocattolo qua, sa vedere se è veramente buona o è una pistola a giocattolo. Il padre parla moltissimo in questi giorni, incazzato nero col mondo il padre, però il padre è sempre il padre di una persona morta, per carità. Certo, questa è la nostra cultura, stiamo in giro alle 3 di notte, per cui uno giustamente chiede, scusa, uno che va a fare in giro alle 3 di notte, un ragazzino di 15 anni, ci sarà un motivo, no, per cui uno va in giro alle 3 di notte, è la nostra cultura. Vabbè. Ma noi ci giudicano perché 3 di notte ancora mi savi, perché noi vivimmo, cai notte, sta vita mi savi. Non è come un nord, io non voglio giudicare nessuno, un nord vive in un'altra maniera, noi vive in un'altra cultura, questa è la cultura nostra. Al pronto soccorso, dice il padre, è stata solo una furia delle creature, dei ragazzini. E ho capito, però non è che uno può giustificare tutto, amico mio, come fa una furia dei ragazzini? Ma non è furia dei ragazzini, pare che non ci fossero solo ragazzini là, dai. Se hanno fatto una cosa, a parte che sono stati tutti ragazzini, per le telecamere è vero, i genitori si stanno di anni e non mai giù, la polizia poi dice, è tutto muccusiello, ma non la famiglia. Padre e mamma non capivano niente, è stata una furia del creatore. Ovviamente non era il padre, ma lì le telecamere delle Iene erano insieme a tutta la famiglia, lì riunita, no? Riunita. Il padre dice anche un'altra cosa, sono ragazzate, non sono vere e proprie rapine. Bah. In questo caso un ragazzato, per me sono stronzato, perché si era una rivuola, gli mi ha cipiato un Rolex, ma no. Ragazzate, i Rolex, le ragazzate, sono tutte ragazzate. Le rapine sono ragazzate. Sì, ho capito, cioè, però uno deve dire, cioè, però se hai, se pensi che sia una ragazzata andare in giro con una pistola, con una pistola di metallo, e se pensi che sia una ragazzata, che ti lo devo giustifico dire? Solo, però, sono parole inaccettabili, ma lo giustifico solo perché ovviamente avendo perso il figlio, per me può dire qualunque cosa. Senti Porro che se la piglia con Saviano, con signor Saviano, dice che dobbiamo... Porro era liberale una volta. Cosa gli è successo, Porro? Toc toc. Se non una cosa, che peraltro neanche racconta bene, e cioè che tutti noi saremmo responsabili della morte di Ugo. Adesso io francamente non mi sento responsabile della morte di Ugo, forse lo si sente Saviano, ma io non mi sento responsabile della morte di Ugo, affatto. Ma non sei il tu, Porro, perché Marco non hai letto da Napoli, l'articolo Marco di Saviano. Sentiamo la gente. Dai, ecco, che è meglio, sentiamo la gente. Marco da Napoli, dai. Vox Populi, sentiamo. Certo. Non è male quello che stanno facendo per il ragazzo morto a Napoli. Eh? È assurdo, è un delinquente che è morto. Non è morto un ragazzino che stava giocando a pallone, è morto un ragazzino che stava andando a fare, che ha fatto una rapina. Sì, no, ma con me sfondi una porta aperta. Diciamo delinquente, io capisco, a 15 anni ancora non aveva precedenti, dunque tecnicamente non era ancora un delinquente. Ma i precedenti ce l'aveva il padre aveva fatto la stessa rapina a Milano. Sì, non c'è dubbio, per cui era invogliato questo ragazzo. Io purtroppo sono per la castrazione chimica a un certo punto della mia vita. Che c'entra la castrazione chimica? Scusa, che c'entra la castrazione chimica? Ma non è che i figli di criminali diventeranno criminali, mi scusi, però un criminale... No, voglio dire, aspetta, a Marco, i figli dei criminali non diventeranno generalmente dei criminali. No, perché lui sta dicendo che al padre criminale avresti fatto la castrazione chimica, non ho capito. Ma allora anche i coglioni come lui bisognerebbe castrare per impedire che nascano altri figli coglioni. Anche a questo qui che chiama, bisognerebbe farlo. Ma io un coglione che è un delinquente a questo punto, bello mio. Ma Ma, vabbè, hai detto una puttanata, Marco, dai. Hai detto una puttanata, dai. Fabrizio da Pesaro, dai. Fabrizio da Pesaro. Ciao ragazzi. Allora io direi una cosa, più che parlare di castrazione, veramente è follia. Io ricomincerei a parlare un attimino di censura. Lo so che a te, Giuseppe, la parola censura non è tanto confacente. In che senso censura? Spiegami. Ti spiego perché. Allora, io sono un padre di un ragazzino di 15 anni, mio figlio mi fa vedere, io sono un DJ, e mio figlio mi fa vedere la musica che ascolta, per esempio. Sì. Beh, non so se avete notato che tutti questi vari tre pettari, parlo di FSK, parlo di lo stesso Achille Lauro, parlo... Sì, sì. Sì, allora? Allora? Non ho dove capito. Sei, caro? Oh, Fabrizio, Cristian da Milano, dai, Cristian, non si prende la linea. Ciao. Dimmi. Giuseppe, a cioè voi lui voleva dire l'ascoltatore di prima che ci sono un sacco di rapper eccetera che danno esempi sbagliati, la camorra, le pistole, lo sappiamo. Cristian da Milano. Sì, non è che possiamo pensare che quello di 15 Giuseppe. Anni vede i rapper. Quello probabilmente le stesse scene le ha viste a casa probabilmente, Cristian, dimmi, dai. C'è bisogno Giuseppe, dei rapper, dai. Ma per una volta tanto volete fare le persone serie e citare l'articolo 52 del codice penale, dire che cosa recita l'offesa, deve essere proporzionata. Ma quello sono i giudici che lo decidono, noi giudichiamo quello che vogliamo dire una volta per tutte. Diventa siete nuovamente la gran cassa del populismo. Ma del qui il populismo che cosa c'entra con questa vicenda di Napoli? Il populismo non c'entra un cazzo, sì, non c'entra. Devi attenerti all'ordinamento. Ma se uno dice, giudizio, se uno dice, ma all'ordinamento stai alimentando una polemica come al solito. Cioè, secondo te il carabiniere dunque ha sbagliato in eccesso di legittima difesa? Secondo te la tua no, prima impressione? Lo stabiliranno i giudici. E allora che dici? Dire, lo dovete dire. Ma, perché... ma l'abbiamo detto già che sono i giudici poi a decidere. Cosa c'entra? Posso avere una mia idea su quello che è successo? Su chi è l'assalito e chi è l'assalitore, su chi è il rapinatore e chi subisce la rapina? Ma posso avere una colpa di chi è? Tu ma stai è normale di chi è la colpa? La uno colpa è del ragazzino, indirettamente. Ma scusami, amico mio, uno che ti, ti punta la pistola alla tempia, ti chiede il Rolex, e uno reagisce, spara e quello muore. Ma questo ci sta, lo ci sta, le carte, ci sta. Non lo sappiamo ancora, non lo sappiamo che cosa è successo. Vabbè. E allora che vuoi? E allora che e vuoi? Allora scusa. Voglio che una volta tanto ci sdoganiamo dal solito la solita polemica, la solita gran cassa mediatica che poi alla fine non porta un cazzo, perché tra una settimana si parlerà di tutt'altro. Vabbè, ciao. La Zanzara. Parliamo di cose sensate, per favore. Cruciani, parliamo di cose sensate, per favore. Sono momenti importanti per il paese. Parliamo di cose importanti, per favore. Sciopero dei taxi, fanculo, chiamo Uber. Quando segna Ramsey, sparisce uno youtuber. Ti tiro in mezzo un bangla che vuol vendermi una rosa. La noce è peligrosa, Milano sushi e coca. La noce è peligrosa, sei una puppa peligrosa. La noce è peligrosa, sexy outfit tutto rosa. Donna! La noce è peligrosa, non sta in piedi ma sta in posa. La noce è peligrosa, storta sì ma favolosa. Andiamo pure. Adoro, adoro, adoro, sì, adoro. Andiamo pure. Adoro, adoro. Allora, allora. Adoro, sì, adoro. Andiamo pure. Ma e c'è Barisoni? Adesso la polizia doveva entrare dentro l'ospedale e fermare tutti. Dopo si entrava dentro l'ospedale e sparava perché qualcuno era armato. Era colpa della polizia perché aveva sparato. E quindi che cazzo deve fare? Guarda che siete veramente deficienti, eh. Devo sparare, deve essere ovvio che un poliziotto deve sparare. No, che cazzo serve a fare? Cruciani, io ti voglio bene, però quando dici che uno non si deve mettere il Rolex quando va a Napoli, sei esattamente come quelli che dicono che una ragazza non si dovrebbe mettere una minigonna in un brutto quartiere. Non capisci un cazzo, perché il problema non è il Rolex del tipo, il problema è Napoli e questa cosa va detta chiara, perché se certe cose succedono solo lì è perché è un posto di merda, non è colpa di uno che ha un Rolex al polso. È vero che può essere un'imprudenza, però non può essere colpa sua. E non può essere che lui non doveva mettersi il Rolex per salvarsi la vita. È che quello è un posto di merda. Bisognerebbe fare qualcosa per farlo diventare un posto un po' meno di merda. questo è il mio pensiero. Ciao stronzo. Allora voglio rispondere a questo signore che io non ho mai detto, non ho mai detto che il carabiniere non doveva andare in giro con Rolex. Uno può andare in giro come vuole. Ieri ho detto che però c'è una differenza, c'è una differenza. Questo, infatti, allora, sì. Non che, ma non figurati se mi viene in mente. Allora, riassumiamo cosa è accaduto. Ieri abbiamo chiamato un signore perché che si chiama a Napoli perché va in giro con Rolex, perché è normale certo, andare in giro con l'orologio. Ma non ho detto che se l'è cercata. Non ho aggiunto allora se l'è cercata, perché lo stesso ragionamento, come dice giustamente l'ascoltatore, si potrebbe fare anche con la ragazza che va con la minigonna. A parte che andare con la minigonna magari in un quartiere dove sai, o in un posto dove sai che è pieno di delinquenti, anche quella è un'imprudenza. Andare a Napoli, con la minigonna, andare in generale, a Napoli allora, il sabato sera, il sabato sera, certo, in generale, in più magari con una minigonna, perché puoi incontrare qualche sbandato che ti vuole violentare. Ma lasciamo perdere, uno è legittimato ad andare ovunque con la minigonna come con Rolex. Se però sei a Napoli, l'ho detto più volte, e gli stessi alberghi, abbiamo fatto spesso degli scherzi, delle intemerate con gli alberghi, ti dicono: guardi, è meglio che quel Rolex lì lo lasci dentro, no, dentro la cassaforte dell'albergo. Beh, amico mio, io non andrei in giro ma di notte. Ma lui peraltro aveva i parenti napoletani, cioè lui con il, sì, il carabiniere in questione conosceva, non era a Napoli per caso. Ho capito. Era però con la fidanzata, dire, perché dire ha i suoi parenti che gli stanno. Dire che è assurdo andare in giro il sabato sera a Napoli con Rolex non significa dare la colpa al carabiniere, sia chiaro. Significa semplicemente che io con Rolex non ci andrei. Poi uno ha tutto il diritto ma tu di andare lascia in stare giro. Che tu non hai neanche l'orologio, perché pur di spendere no, tu non spendi. Non mi piacciono. Per te il Rolex è una roba passiva. No, ma non mi piacciono gli orologi. Male, se non mi piacciono gli orologi, mica sarà un delitto. Male, ma perché? Sono obbligato. Sei tutto storto. Ma non mi piacciono gli orologi. Sei un personaggio. Però ti voglio far vedere una cosa. Sì. Io ho qua. Vedo che lì hai una custodia. Cos'è? Sì, una sigari. No, non porta sigari. Una scatola. Una scatola. Lo dico dal monitor di servizio. Sembra un po'. Dentro questa scatola c'è una pistola giocattolo. Eccola qui. Cosa vuoi fare? No, stai calmo. Allora, una pistola giocattolo. La faccio vedere a tutti. Eccola qua. Questa pistola giocattolo, ripeto, è una ma pistola. Ma il bollino rosso davanti, certo, ce l'hai? Assolutamente. Ma guarda, non lo guarda, vedo, il puntino rosso ce l'hai. Eccolo qua, guarda, te lo faccio vedere. Ah, okay, puntino rosso. Sì. Pistola il puntino rosso, sai che è quello che dovrebbe contraddistinguere. Allora, questa qua è una Beretta 92 giocattolo. Ma cosa vuoi dimostrare questa roba? No, voglio dimostrare una cosa molto semplice. Io non conosco le armi, però ho visto la Beretta 92 regolare in foto. Questa qua è una Beretta 92 pistola giocattolo, ripeto, pistola giocattolo che tutti quanti noi possiamo avere semplicemente andando a comprare. Stai facendo le indagini? No, sto dicendo che cosa sei, Taormina? No, stai cosa sei, il RIS di Parma? Là, come si chiamava l'altro? Come chi sei, Gelsomino? L'ispettore Gelsomino, no, di Taormina. Però fammi spiegare con una cosa seria, perché no, è una cosa seria, seria. Sì, ma infatti non capisco perché hai portato una pistola in studio. La dimostrazione, questo. Pistola giocattolo, la dimostrazione è questa. Cioè, perché ho portato questa pistola qua? Non per dire, guardate, ho la pistola in mano alla Buonanno, Buonanima tra l'altro, di Buonanno. Perché è impossibile distinguere. Guarda che roba, è una roba incredibile. Sì, è esattamente, non è una pistola, è la riproduzione di una pistola metallica, uguale, identica, col bollino rosso. Che tra l'altro, se tu lo punti, ma qui non lo voglio fare, se tu la punti contro una persona, frontalmente, è anche difficile vedere il bollino rosso. Poi, nell'adrenalina del momento, sì, praticamente è quasi impossibile. Dunque, questa pistola giocattolo che i delinquenti si procurano in maniera semplicissima costa intorno ai 180-200 euro. Questa Beretta è costata, io l'ho comprata usata, più o meno è costata uguale. Non l'hai comprata tu? Ma come no? Ma assolutamente, ma no, tu l'ho non comprata. Spendi soldi per niente. Stai tranquillo. Allora, questa qua non bisogna mai farla vedere a vista, cioè non deve essere mai a vista, non puoi importarla con il cinturone, non puoi chiaramente dare l'impressione di doverla usare. E non incutere paura alle persone. Cioè uno non può portarsela dietro questa. No, se la può portare dietro nella custodia. Ah, ecco, questo non diciamo. In una custodia, assolutamente. Cioè non è che tu, anche se è giocattolo, spieghiamo. No. Non è che anche se è giocattolo non in te la redazione, puoi portare addosso. Puoi andare da Barisoni dicendo se non mi dai la linea alle 20:34 facendo vedere quella roba lì. No, puoi mostrarla, diciamolo chiaramente. Sì, benissimo. Sì, assolutamente. Okay. L'ho detto con una battuta, ma è così. No, però. Ma così non puoi mostrarla in pubblico, non puoi andare in giro con quella pistola nella tasca, per esempio. E questo perché altrimenti si vista, creerebbe quel famoso equivoco di cui parliamo. E poi incutere paura. Ecco, no, per spiegare che questa norma allora ha la sua ragione. E quindi ciò spiega l'atto del carabiniere. Posso dirti un'altra cosa? Innanzitutto, sopra i 14 anni, sotto i 14 anni non si può comprare. Cioè, i 14 anni la possono comprare, questa qua. Guarda, molto facile anche io prima. Molto facile anche fare la cosa, no? Questa qua è la carica di questa pistola qua. Si carica in questo modo, molto semplice. Però adesso riponiamola dentro. Il punto non è. Il punto non è. No, no, certo. Il chiaro, punto chiaro. È che questa, l'ho portata. Se c'è questa norma, la norma ha una sua ratio. No, ma l'ho portata. Cioè, vuol dire che l'equivoco si presta all'equivoco. No, ma l'ho portata pistola. Per un motivo molto semplice: per dimostrare anche dal punto di vista visivo, avendola in mano questa pistola, avendola in mano, che è esattamente uguale. Me l'hanno spiegato, chi me l'ha data? È esattamente uguale, chi me l'ha venduta? È esattamente la non stessa. Non te l'ha venduta. No, chi data, te l'ha venduta, prestata uguale. Per questa dimostrazione? No, no, venduta la tu non spendi una, soldi. Ma è del 2012, questa roba qua è vecchia. Ma tu, cioè, non tiri fuori 100 euro. Ma figuriamoci, una usata costa 70, 80, 90 euro, può costare una cosa del genere. Costa però 200 euro. 200 euro di pistola, facilmente, cioè, comprabile da chiunque. Ed è uguale. Cioè, non è possibile un attimo, in una frammento, in un decimo chiaro, secondo, certo, rendersi sì. conto. Vi rende, cioè, qua la prova, cioè, è impossibile, sembra una pistola vera, a parte il tappino rosso, che non è un tappino, il contorno rosso, che naturalmente nella pistola vera non c'è, certo. E che però frontalmente e in alcune scacciacani non c'è nemmeno quella cosa rossa, questa cosa rossa qua la si vede solo se è in modo trasversale, poi tu non hai sul momento la possibilità di rendertene certo. conto, no? Sì, sì, questo può essere. Mariano certo. da Napoli, dai Mariano, dimmi. E magari qualcuno lo può anche togliere quel bolino rosso. Sì, lo può coprire col pennarello, o per lo esempio. Può colorare con lo può colorare. Un, Mariano da Napoli, dai. Pronto? Dimmi Mariano. Ciao, dimmi. Sono Mariano. Dunque io voglio dirvi questo. Libera vendita, mi dicono pure Alessandro da Bologna, libera vendita. Cioè si può comprare tranquillamente ed è esattamente uguale alla pistola Beretta 92 utilizzata dal ragazzino quindicenne. Dai, dimmi. Non voglio parlare del paradosso che il ragazzo è stato sfortunato che ha incontrato un carabiniere. Il dramma è la città di Napoli. Non si parla mai che quello, le parole che hanno detto i genitori, le persone che sono andate a rompere un pronto soccorso, le persone che sono andate a fare una stesa davanti la caserma Pastrengo che sta nel cuore di Napoli. Io voglio sapere il commissario, il prefetto, qualcuno li ha identificati. Perché non vengono presi? Ci sono delle non indagini in corso anche su questo. Spero, spero Mariano, anch'io ho la stessa speranza tua. La mia speranza è che quelle persone lì vengano prese una per una e condannate secondo le norme per devastazione e altri reati che sono violenza, interruzione di pubblico servizio e tutto quel cazzo Sì, nello stesso ospedale, nello stesso ospedale, Mariano, poi a quelli non gliene fregherà un cazzo di queste condanne o di queste accuse, figuriamoci. Certo. Però ti posso dire una cosa, Mariano, nello stesso ospedale, negli stessi istanti in cui veniva preso d'assalto il pronto soccorso, sì. veniva portata, poi purtroppo credo sia morta, una ragazza che era stata picchiata e uccisa dal suo fidanzato, ex fidanzato. Per fortuna la cosa non ha avuto, diciamo, le due cose non sono collegate, cioè non è che è mancata assistenza a quella ragazza. Però è incredibile, cioè il pronto soccorso serve a queste cose qui, non serve a 50 coglioni che devono vendicarsi della morte di una persona. Ma ci mancherebbe. Ma poi che c'entra vendicarsi della morte di una persona, prendersela col pronto soccorso che al limite gli avrebbe potuto salvare la vita, tra l'altro. Che cosa cazzo c'entra? Per loro questa è una cultura positiva, loro credono che sia giusto così. Forse non è chiaro. Ciao, lo so Mariano, purtroppo il problema è quello là, non c'è dubbio. Pietro da Milano, vai Pietro. Sì, pronto. Dimmi. Sì, volevo parlare con quel bigotto di Parenzo. Sì. Buonasera, grazie per aver chiamato. Eccomi. Buonasera. Volevo dire, la Federalberghi ieri ha chiesto la cassa integrazione per i dipendenti degli alberghi che adesso non hanno più lavoro. Sì, e per le purtroppo sì. Ecco la stupidaggine. E per le prostitute? Però sono libere professioniste. Ecco il maiale. Sono libere professioniste, ma adesso che gli è calato il mercato dell'80%. Secondo, guarda, non è un lavoro riconosciuto. Vorrei farle notare che non è un lavoro riconosciuto. Però oggi cioè, abbiamo tante categorie da proteggere. Le prostitute vanno protette. Scusi? E quante famiglie ci mantengono? Sì, ma non lo so se a casa sua qualcuno esercita questo nobile mestiere. Mi dispiace se a casa sua. Vedo che lei è molto accalorato. Non vorrei che magari qualche sua sorella esercitasse questo nobile mestiere, visto il suo attaccamento. Appunto, visto il suo. Non ci sarebbe niente di male comunque. No, per carità, allora glielo auguro che magari sua sorella eserciti questo mestiere. Dopodiché, siccome non è però considerato una categoria, come dire, no, un ordine professionale, non esiste l'ordine professionale delle prostitute, ci sono un sacco di categorie. Per colpa di quelli come te. Ci sono un sacco di categorie che invece seriamente meritano una immediata tutela da parte del governo. Scusa, però sì, se lo metti per sul essere merito, portate se lo fuori dalla strada, certo, se lo metti bravo. Sul merito, anche una prostituta meritano che una perde. Tutela a 365 giorni l'anno, cioè portate fuori dalla strada, certo. Fermi tutti. La zanzara. Questa è la storia di un uomo che cade da un palazzo di 50 piani. Mano a mano che cadendo passa da un piano all'altro, il tizio per farsi coraggio si ripete. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Il problema non è la caduta, ma l'atterraggio. Giro a pie, ma non è sopra il ciel che voglio un aeroplà. Bimba attacca, lascia pe. Roma è bella, dice il re. Culo sopra una lita, quando la manda mon frère. Ruben Sosa, non tengo i piedi per te. Cose, cose nell'età, nella mia spra. Cucarraccia nelle scafrate, sembra tua lì. E che cos'è? Sembra di stare a tua lì. E che cos'è? Sembra di stare allo zoo. Sembra di stare a tua lì. Signorina, ma perché le pare che noi abbiamo l'aria da teppisti? Per carità, mai detto una cosa simile. Ma no, e che le sembra che siamo, signora? Ma no, niente. Perché non scendete dalla macchina? Non siamo mica a tua ricca. È che siamo in ritardo, dobbiamo lavorare, stiamo già sforando. Ah sì, state un po' sforando. E che vi serve? Una storia tutto sangue da far venire il vomito per montarci uno scoop? Ma la volete smettere? Sì, ma guarda che la piazza a casa nostra, puttana di una bianca di merda. Vattene a fanculo tu. Calmatevi, ce ne andiamo. E tu che ti fini? Guarda che stronzo. Non sei mica a tua ricca. Fammi una foto coi fra, fa la foto a tua ricca. Sembra di stare a tua lì. Sembra di stare allo zoo. Sembra di stare a tua lì. Sembra di stare a tua lì. E che cos'è? Sembra di stare a tua lì. E che cos'è? Sembra di stare allo zoo. Sembra di stare a tua lì. Sembra di stare a tua lì. Ma andate a cagare, va, giornalisti di merda, va. Siete delle merde, basta. Fanno bene togliervi i soldi. Io così a fine anno non ci arrivo. Io così a fine anno non ci arrivo. Perché sei capone nell'anima. Mi pesa tremendamente dirlo, ma mi trovo completamente in accordo con Cruciani, porca puttana. Cioè, questi non stanno capendo un cazzo. L'Italia è un paese sicuro, venite a fare turismo in Italia. Ma chiudono Teatro della Scala, San Siro. Poi le scuole si riaprono, ora le vuole chiudere tutto un mese. Messaggi tranquillizzanti e messaggi di panico. Ma di che cazzo stiamo parlando, porca puttana? Cioè, ma facciamo chiarezza, porca troia. Cioè, che cazzo? Volevo dire una cosa a questi che hai chiamato del Grande Nord. Ma mi ti discondo, tu sei una grande latrina. Grande Nord, Grande Nord. Grande Romania, Grande Albania. Che sì, Grande latrina luta. Non sai il nome tu. Comunque, ritornando al discorso, a Napoli è successa una tragedia, veramente ci sono due vittime, due famiglie distrutte, la famiglia del ragazzo che purtroppo ha fatto questa rapina che non doveva farla, e la famiglia dei carabinieri, adesso si trova a lottare contro i rimorsi di coscienza e quello che purtroppo è successo. È stata una pagina nera, veramente una cosa brutta. Ma tu ci sembra una grande latrina, Grande Nord, Grande Albania, Grande Romania, ma tu sei al suo nord, Davide De Mamed. A Napoli! Senti questo, Davide, Alessandro da Bologna che mi manda sto messaggio. Scusate, sentite sto rumore. Ve lo faccio risentire. Cruciani, Parenzo, secondo voi è finta o è vera questa berretta 92? Risentite. Allora, questo qua è un istruttore, anche lui mi ha mandato le foto delle sue pistole, eccetera, eccetera, un istruttore di tiro, Alessandro da Bologna. E mi pare piuttosto evidente che non si può distinguere, è impossibile, no, sono ragazzi. Praticamente le stesse pistole. Steve da Modena, dai Steve. No, ma questo per dire che sul momento un signore, a prescindere dal fatto che fosse un carabiniere, poi tra l'altro 23 anni, non vuol dire nulla, cioè non puoi sul momento capire cosa succede, dunque qualsiasi reazione è possibile. Steve, dai Steve. Oh, ritardato, adesso ti smerdo io perché è tre giorni che parli delle cazzate. Questo di mi sembra un buon attacco quello di Steve, promette molto bene. È un po' di tempo che non chiamava Steve, signor Steve da Modena. No, aspetta, stai dicendo delle cose importanti. Il coglione Steve da Modena. Perché lo tratti così, scusa? Un giornalista di serie B. Sì, perché? Ma perché serie B? Serie C? Facciamolo parlare. Allora ti spiego il motivo. Per una volta così, che non attaccano te, Parenzo, sei contento. Bravo, sentiamo un attimo. Così non parli più di questa faccenda qua. Allora, io sono anni che faccio corsi di autodifesa e la prima cosa che ti insegnano è disarmare una persona con una pistola, quindi il carabiniere, se non sa fare il suo lavoro, è meglio che sia a casa, perché pistola puntata alla tempia al carabiniere. È arrivato Steve da Modena, il cazzone Steve da Modena, che dice bisognava disarmarlo. Rispetto, è disarmare una persona. Vai avanti, vai avanti, hai capito, coglionazzo? Vai avanti, bravo sto Steve, però allora ti sta facendo il pelo, è un'arte israeliana che molto bene conoscerà il signor Parenzo. Sì, sì, no, bravo Steve, avanti, perché ti sta facendo il pelo, Gruciani. Ti sta proprio. Allora, sta dicendo che sta facendo il pelo. Allora, io faccio questa disciplina qua con carabinieri, finanzieri, poliziotti. Chi sei, Rambo? È la prima cosa che fanno, capito? Con gli altri. Rambo da Modena, Steve Rambo. La pistola dalla tempia alla fine Sigal. Se un carabiniere non sa fare questa cosa qua, vuol dire che non è il suo mestiere. Ha già sentenziato che il carabiniere è praticamente un incapace. Hai detto, che è un incapace, giusto? Io non sto dalla parte dell'uno e dall'altro, no. Ti sto dicendo solo il primo manuale che ti insegnano tecniche di autodifesa, come togliere una pistola alla tempia, è la prima cosa che ti insegnano a questo corso di autodifesa. In mezzo alla strada oppure nelle dimostrazioni in poltrona o in palestra, come fai tu? In mezzo alla strada, al centro di Napoli, oppure in palestra, tra quattro cazzoni. Bisognerebbe spararti su per il culo, a te bisognerebbe spararti. La prendo come una carezza questa cosa, Steve. Ma sei un poveretto, vai avanti. Mi sembra molto preciso e bravo sto Steve. L'unica critica è questa, quella di attaccare il carabiniere. Un poveraccio sei praticamente. No, sei. Non è la critica, tu sei un paraculo che come succede qualcosa io sto dalla parte dell'ordine, come dubbio. Salvini. Appena succede Salvini qualcosa, che me ne frega di Salvini a me. Io bravo, sto col carabiniere, Steve. Io sto col poliziotto. Senti quell'altro, Vai a cagare, vai. Autorevole. Poi Steve, hai un paraculo. Mi hai dato una lezione. Steve mi ha dato una lezione. Ti ha dato una bella pettinata. Signor Steve, che fa? Che fa? Non si capisce che cosa. Non si capisce che cosa fa con l'autodifesa in palestra e non al centro di Napoli. L'abbiamo fatto con pistole vere. E se ci riesco io, un carabiniere dovrebbe saperlo molto meglio di me. Ma vai, perché non ci vai tu al centro di Napoli a difendere la città invece di quelle delle forze dell'ordine? Vai al posto delle forze dell'ordine a Napoli, non ti preoccupare, vai nei quartieri spagnoli. O la pistola è finta, ma un carabiniere deve saperla togliere, punto e basta, e poi non deve sparare. Perché una volta che l'hai disarmato, non deve sparare. Questo è interessante. Il carabiniere non deve sparare, è interessante, non l'ho mai sentita questa cosa qua. Un carabiniere con la pistola puntata. Non è il tuo mestiere, sei un carabiniere fallito di serie B, basta, come te. Offende anche i carabinieri, incredibile. Ciao. Allora, dopo il tentativo, non dico andato a vuoto perché qualcosa ce l'ha detta l'altro giorno, poi si è incazzato con il papà, passata la buriana, passate le iene, c'è grande esposizione mediatica da parte di Vincenzo, perché lì si chiamano anche Vincenzo ogni tanto. Ma, per carità, poi ogni nome è legittimo. E proviamo a richiamarlo, che dici Parenzo? Chiamiamo, sarà inopportuno? No, non ma so quello parlo dirti, ovunque, non dai. So più cosa parlo dirti, ovunque, dai, non diciamo stupidaggini, parlo ovunque. Pare che domenica vada pure dal signor Giletti, pare. Pronto? Vincenzo? Sì, sì. Ciao, ci siamo sentiti l'altro giorno, volevo un po' fare la pace con te, chiederti un po' scusa per quella telefonata. No, assolutamente no. Perché? Assolutamente no, perché non hai rispettato il mio dolore, Ma scusa, ma ieri ti ho visto in televisione, come non ho rispettato il mio dolore? Ti ho fatto una domanda, tu mi hai fatto una domanda e poi ti sei arrabbiato, tutto qua. Cioè mi sono arrabbiato perché poi quando ho detto quella cosa, no, non ti posso rispondere, cioè... Posso? No, aspetta, prima che parli. Sì, dimmi. Io ti dico subito che già ho fatto pace con te, già sto parlando. Meno male. Già te lo dico, ho fatto pace. No, guarda, io non porto rancore. No, ma nemmeno io. Posso dirti una cosa? Allora, io una persona che ha avuto un figlio morto, esatto, di 15 anni, io non, sì, posso, non posso che essere vicino a questa persona. Questa è la base di tutto. Questa è la base di tutto. Poi, quando tu mi dici il carabiniere, il secondo, terzo, quarto, queste sono cose che vedrà la magistratura. La magistratura. Assolutamente, io ti stavo chiedendo un'opinione tua. Non ce l'ho perché non c'ho gli atti, capito? Non ho gli atti in mano. In questo, la mia risposta era questa. Allora io volevo chiederti una cosa: se tu in questo momento avessi di fronte la faccia di quel carabiniere, che cosa gli diresti da padre di un ragazzo di 15 anni? Cosa gli diresti? Se ci avrei la faccia di quel carabiniere avanti adesso, non tenesse manco cura ciro guardando a luce, non tenesse manco parola ciro. Cioè non venga parola, non so, venga parola. Se lui dice, ammette tutta la verità, può essere sì, che ci dica qualcosa in bene o in male. Ma perché secondo te lui non dice la verità quando dice quelle cose, quando racconta quella... Cioè no, secondo me no. Perché a 15 anni un ragazzo, lasciamo perdere che fa le rapine, quello è un altro disco, perché va in giro? Poi va in giro con una pistola, perché? Te lo sei fatto questa domanda da padre? Assolutamente, ma ha fatto un sbaglio enorme, grossolano. Tu dici che è una ragazzata, però ho sentito da qualche parte che dice è una ragazzata. Per me è una ragazzata, cioè, che ne sai, posso mai dire, cioè, come la vogliamo definire, perché come la definisci? Beh, una di 15 anni, che non tiene precedente, bello con mio sur, 3 lavori fatti, assistenti sociali addosso, cioè noi l'abbiamo messa, l'assistenza sociale a dire, possiamo facendo quasi una corsera, fanno corsi per sai vuole. Cioè, di che stiamo parlando? Cioè, stavi cercando di metterlo, stavi cercando di portarlo sulla strada del lavoro, dici? Ma assolutamente, perché io. Ho capito, però mi è come giusto le tarantelle. Sì, ma come giustifichi allora come lei lo concepisci il fatto che questo qua di notte va in giro e c'aveva già un Rolex in tasca? Probabilmente dico, no, da quello che leggo, aveva già fatto un colpo. È uscita la denuncia di questa cosa che hanno fatto la rapina. Beh, no, è uscita la denuncia, ha fatto la rapina quel giorno là. Sì, chi non ha fatto la denuncia significa che il Rolex era di mio figlio. E può essere che l'era fatto un rim, però la collanina, non la metti la collanina? Sì, ho letto anche che c'era la collanina, sì. Cioè. E la collanina è di mio figlio, se l'ha regalata la sua ragazza. Tu dici, siccome non c'è la denuncia, allora dici, non è che tutti denunciano però quando subiscono una rapina, lo sai, no? Ah, non denunciano? Se ti rubano la Rolex a te, non lo vuoi denunciare? Beh, io lo denuncio, ma sai che ci sono un sacco di... No, di... tu non lo vuoi denunciare. No, io lo denuncio. Ma scusami, che cosa pensa lei di quelli che hanno sfasciato l'ospedale, ad esempio? Li condanno, hanno sbagliato. Ma perché hanno? E quelli che hanno sparato colpi di pistola fuori dalla caserma dei carabinieri? Come questo segnale? Non la posso rispondere, perché questa qua non lo so se è provenuto da questo gesto. Però che gesto pare è, che ci fossero è anche. È provenuto dalla morte di mio figlio. Non lo so, perché qua sparano tutti i giorni. Scusi, però dentro quell'ospedale dicono, io leggo, poi magari non è vero. Sì. Leggo che ci sono anche dei parenti, cioè magari qualcuno che conosce anche tu, tra le persone che hanno dato l'assalto. Ma sicuramente. Chi sta dicendo non è vero? Sicuramente no, ci sarebbe qualche parente. Cioè, magari c'eri anche tu, no? Hai visto anche tu? Qua non ti posso rispondere. Sai perché non ti posso rispondere? Perché? Perché io vado in diretta, se mi vuoi vedere, vado in diretta domenica sera. Dove? Ah, non è l'arena. Sì, è perché? Vado a rispondere a quel bel signore. Chi è? Borrelli. E che ha fatto Borrelli? Vado a rispondere a lui. Che ha fatto Borrelli? Borrelli ha detto... Sì. Ti hai visto solo quello che hai detto ai tuoi figli, che facciamo l'amore senza senso. Sì, cioè, facciamo i figli senza amore. Sì, quello ha detto, fate i figli per così. Ma Borrelli ce l'hai figli? Sì, ce n'ha, credo che ce n'abbia, sì. Ce n'ha. Cioè, Borrelli infanga solo un amore. Mo io non mi posso fermare, perché se mi fermo, vengono altri troppi di appartenanza. A mia moglie, che se ho la forza, io ce la caccia, forza anche, no, ci distruggono. Allora, se è morto mio figlio, posso morire io, i miei figli e cose. Da voi... Siamo sempre uno di meno. Così fate voi con noi napoletani. Ma no, io guardo uno di meno. Guarda, sai, per fermare Vincenzo Russo, deve morire Vincenzo Russo. Ti posso dire una cosa. Allora, la dico chiaramente. Quando un padre ha dei precedenti come quelli e il figlio fa delle rapine, uno può pensare legittimamente che c'è un ambiente criminale che ha condizionato pure il bambino di 15 anni. Questo è il punto. Allora, a casa mia si rispettano le regole. A casa mia. Ma amico mio, come fai a dire una cosa del genere? Tu le regole non le hai mai rispettate nel passato. San Massimo a me, ma tu la vita nostra, non mai sapi niente. Ma no, certo che non la conosco. Ma non la conosco. Ma non le conosco, però conosco, ho letto una cosa. A casa mia. Ma ho capito le regole, ma che significa i precedenti penali? Tu l'hai sempre rispettata, la legge l'hai sempre rispettata? No, no mai. No, appunto, e allora come fai? Però ho fatto rispettare la legge a casa mia. Ma che ho imposto le regole, la legge l'ho imposta a casa mia. Ho capito, mia. Ma le leggi sono quelle dello Stato, non sono le tue. Quelle che facci, i figli mi non l'hanno fatto. Perché io pago a fare i figli lì. Ma invece l'ha fatto però. Che ho fatto? Ha fatto una rapina, amico mio. Stava facendo una rapina. Sì, ha fatto una rapina. Tuo figlio stava facendo una rapina al carabiniere. Ma io non gliel'ho insegnato. Allora, eri al pronto soccorso anche tu? Hai sfasciato il pronto soccorso anche tu? Io ero al pronto soccorso. L'hai sfasciato anche tu? Hai partecipato Vuoi a quella che ho rotto io? Che cosa hai rotto? Che hai rotto? Aspetta domenica. Non è un film. Non è un film, il trailer. Ma lei, no, ci basta sapere, lei era al pronto soccorso? Sì. No, ci basta sapere questo. Hai sfasciato qualcosa? Sì. Hanno fatto bene a sfasciare il pronto soccorso? Non ti voglio rispondere. Beh, no, scusa. Ci hanno fatto buono o no? Ah, ok, ho capito, però dici non mi vuoi rispondere, significa che in qualche modo dici erano... Tu voglio dire rumeno. Allora, tu stai a Milano adesso? Sì, certo che sto a Milano. Non ti devo dire qua. Ma come faccio? Ma io faccio la radio ogni giorno, amico mio. Come faccio a venire a Napoli, che poi da Milano c'è pure il coronavirus? Manco ci si può spostare, amico mio. Come no, qua a Napoli sta da 200 anni il coronavirus. Amico mio, qua a Napoli sta rucinando il coronavirus. Mi fai anche ridere perché... Ti faccio ridere, è come si fa con questa cosa del coronavirus. Ma io non ho nessun veleno, amico mio. Uno che fa allora, se vabbè, tu vieni qua, veleno, accoglie, con tutto che si velenoso che ti veleno in corpo. Se tu vieni qua e vieni a casa mia, io ti accoglio sempre bene, non succede niente. Però uno che dice che sono ragazzate quello di girare con una pistola, anche se è una pistola diciamo finta, e puntarla a un carabiniere o comunque a una qualsiasi persona per prendere un Rolex, perché di quello si tratta, a meno che tu non è che dici sono ragazzate, non sono ragazzate, è un tentativo non di rapire. Non sono ragazzate, sono gesti criminali. Ho capito, ma prima hai detto ragazzate. Cioè 15 anni sono gesti criminali. Ma guarda l'età, a 15 anni ci sono anche dei criminali. Tu 15 anni non hai mai fatto niente. No, francamente a 15 anni non ho fatto un cazzo, guarda. Ti posso assicurare? Non ho fatto mai una pistola, non so manco come è fatta io. Una pistola non so manco come è fatta. Non ne hai mai fatto niente, non hai fatto mai niente di illegale. Uno spinello. Lui sì, da Parenzo. Che pensi di quell'hashtag che hanno fatto io sto col carabiniere? Pure Salvini dice io sto col carabiniere. Pure io sto con i carabinieri. Io sto con i carabinieri, sto con la polizia, sto con la finanza, perché se ci stessimo in forza dell'ordine, noi ci mangiassimo una parte con un'altra. Se ci stessimo in forza dell'ordine, noi fossimo come gli ebrei, come in Medioevo, fossimo preda e predatore. Però Salvini dice, altre persone dicono io sto col carabiniere, con quel carabiniere lì. Sì, e io con tutti i carabinieri, ma con quello no. Con quello no. Ha sparato prima, proiettile. L'autore a 3-4 metri di distanza a Figlio. O se mi sa ancora paura, secondo te si allontana del Figlio, non deve più allo fa male. Che non poteva fare male più. Non lo so. Voleva restare, lo facevo fui, perché Figlio mi ha avuto una botta a bietina, calibro 9x21. Si Figlio se ne fui, era per forza ospitale, voleva restare ospitale. Non potevo trasindacare, non volete capire, perché siamo napoletani, si voleva distruggere. Ma nessuno vuole distruggere nessuno. A me, la vita mia è fornito qua. Scusami, ma come campi tu oggi, per esempio? Come campi? Io, reddito di cittadinanza. Ma veramente prendi reddito di cittadinanza? Assolutamente. 780 euro? No, 890. 890. Perché non ci abbiamo niente. Vabbè. Senti, la giustizia che vuoi tu qual è? Vuoi il carabiniere? Voglio la verità. Cioè il carabiniere condannato? Vorresti il carabiniere condannato? Voglio la verità. Allora, è stata un'esecuzione o no, secondo te? Ha fatto buona sparachilla di colpo quando siamo a 4 metri di distanza. solo che sia deciso, sì o no? Non lo so che cosa gli passava per la testa. Beh, come si so. Come faccio a dirlo, Vincenzo? Come faccio a dirlo? Ma come faccio a dirlo? Non lo so le indagini. Ma nemmeno tu lo sai. Nemmeno tu lo sai che è successo. Non lo sai. E allora che dici? Sto facendo un mio pensiero. E allora perché mi dai del vigliacco? Non lo so quello che è successo. Ho detto ieri, quando ti ho sentito la prima volta. Scusami, Vincenzo, stai zitto un secondo. Vincenzo, stai zitto un secondo. No, aspetta un attimo. Io ho detto una cosa. Se è stata un'esecuzione, se è stata un'esecuzione, come tu hai detto all'inizio, adesso non lo vuoi più dire. Sì, io l'ho detto, E allora perché non lo ribadisci? Perché non hai il coraggio di dirlo un'altra volta? L'avvocato forse l'ha detto di non dire. Oh, benissimo. Allora, se è stata un'esecuzione, se verrà dimostrato, il carabiniere verrà condannato. Punto. Ma se uno è stato giustiziato. Ah, vabbè. Sei un vigliacco. Qualcuno mi ha detto che il carabiniere ha sbagliato a portare dietro il Rolex, sei d'accordo? No, assolutamente no. Assolutamente. Ma quanto vale sto Rolex poi sul mercato? Io non riesco mai a capire quanto cazzo può valere un Rolex, rubare un Rolex. Io questo non lo capisco. Andate a rubare Rolex, ma dovete fare rapine e fate le rapine vere, noi Rolex, dai. Cruciani, ti dico una cosa. Dimmi. Io non ho fatto gli scuole, non sono istruito, ma sono intelligente. Tu a me non mi fai. Ma in che senso? Scusa, non ho capito. A me non mi fai che mi fai dici le cose non dai spurato. No. Io ti rispondo, tu dico quando vado a Rolex. E dimmi quella cosa che ti ho detto io. 1000 euro, quanto potrà valere? Dimmi quella cosa che ti ho detto io, rispondimi. Te lo dico quanto vale. Allora, se che c'è stato buona spara che la ti ho detto la mia figlia. Allora, se siamo in un film, dimmelo, e uno è stato sono vigliacco, va bene. Sono vigliacco. E può essere che sono vigliacco, che ti devo. Lo vuoi sapere quanto vale un Rolex? Quanto vale? È un vigliacco. Ho capito. Il vigliacco però non è il valore del Rolex. Il Rolex vale tot. Cioè, non lo so. Per me andare a rubare un Rolex e mettersi la a mettersi nei guai per un Rolex un è una follia. Ti posso dire come la penso. Siccome sono sincero, io sono dalla parte fino a prova contraria, sono dalla parte delle forze dell'ordine. Fino a prova contraria, se sarà dimostrato che questo qua, se verrà dimostrato che questo qua ha giustiziato tuo figlio, giustamente verrà condannato. Questo è quello che penso io. Ci ti sta bene? Se emergerà tutta la verità e le cose sono andate come si presuppone, tu l'onore di parlare con me non ce l'avrai più. Ma le cose le decide la legge, non le decide Vincenzo Russo. La verità non è di Vincenzo Russo, è la legge, che deciderà. Subbonente. Ciao Vincenzo, abbraccio, ciao. Mi raccomando. Ciao Massimo, a me. Non avrai più l'onore di parlare con me, sei un vigliacco. Ancora insisti con sto fa, ancora insisti con sta cosa. La zanzara. Mauro, che è Mauro? No, vabbè, Mauro, dai. Ma perché mi avete messo in mezzo Mauro adesso? Ha chiamato Mauro, qui passa tutto al centralino. Non si capisce un cazzo di quello ma che dice. Ma cosa vuoi? Mauro, mi hai rotto i coglioni. Victor. Ma vai da un logopedista. Quello che dici. Sei finito, sei morto. Sei finito. Ma che parlare? Poi, tra le altre cose, il cellulare nuovo l'ha comprato con reddito di cittadinanza. Lo compra con il reddito di cittadinanza il cellulare nuovo. Ma scusami, Mauro, dove l'hai comprato con reddito di cittadinanza? Certo, il telefonino, naturalmente. Certo. Mantenuto da Mantova. Certamente. Ma sei un mantenuto. Mantenuto, vergognati, mantenuto da Mantova. Mantenuto da Mantova. Mantenuto da Mantova. Perché il coglione di Cruciani, d'accordo con gli altri due imbecilli del centralino, hanno storpiato la mia voce per dicendo si sente male, invece è tutta una balla per rovinare il mio intervento perché vogliono affossarmi. Se ci fosse il mio maestro di vita Schiaffone. Chi? Schiaffone, il mio maestro di vita. E chi è Schiaffone? Non poteva chiamarsi diversamente. Quello che mi ha tirato su. Io sono andato a donare l'aula lì per la sala per le donazioni era veramente vuota. Dicono che sono 10 giorni che non viene nessuno, tipo in 10 giorni 2 donatori, perché tutti quanti si stanno cagando del coronavirus. Io invece sono andato perché non me ne fotto un cazzo. Spero di prenderlo, così sta storia finisce, mi levo il pensiero, lo prendo, magari muoio, mi levo pure dai coglioni e andate tutti a fare in culo voi e questo cazzo di coronavirus di merda. Se potete chiamare i carabinieri, ci sarà qualcuno all'ascolto? Comunque ragazzi, la cosa che mi impressiona di più di questa lunga conversazione che abbiamo avuto, la seconda nell'ordine con il padre del ragazzo ucciso, è la freddezza. Posso dirti, no, la freddezza, per carità, perché poi dentro sicuramente per la morte di un figlio, anche in un contesto di quel tipo, sicuramente quella persona soffre, non c'è dubbio, però si concede facilmente, ha voglia di parlare, ha voglia di chiacchierare, no, l'avete sentito, ha voglia di chiacchierare. E quanto ha voglia di chiacchierare, ha annunciato una sua presenza domenica con uno scontro con Borrelli. Io abbraccio Borrelli tantissimo, il consigliere regionale dei Verdi alla regione Campania, forse ex Verdi, non lo so, perché è uno che difende la legalità in Campania, molto coraggioso comunque. E poi ha detto, poi magari riproporremo le frasi discusse di Borrelli, no? Le frasi discusse di Borrelli, ha detto, ha condannato l'assalto al pronto soccorso. Certo. Ragazzi, meno che male, bisogna fare? Meno male. Comunque, poi lui diciamo, ha detto questo, che offende l'onore di Napoli. Certo. L'onore di Napoli. Cari ascoltatori, ho parlato poco fa con l'amministrazione della radio. Sì. Da oggi la trasmissione chiuderà alle 20.05 a causa coronavirus. Non è vero. Ho preso, ma perché devi diffondere? Ma stai diffondendo, sì, del terrore. Tutto, ma non tutto. È vero. Causa coronavirus. Sì. Questa trasmissione chiuderà d'ora in poi fino al 15 marzo. Sì. Alle 20.05, siamo già fuori. Guarda, hai ancora 2 minuti. Vai, italiani! Cagare, bellissimo, chiudere prima, dai, che funziona, fa dai, ascolto, che la gente no, ci casca, dai. Scusi, ma lei prenderebbe Spatalino all'interno della nuova, della nouvelle vague della Rai, caro Freccero? Naturalmente. Sarebbe un elemento dissonante, naturalmente, con quello che è il mainstream del politically correct di questa Rai targata PD, PD. E quindi naturalmente potrebbe avere un ottimo spazio, ad esempio su Rai 2, nell'approfondimento della sera. L'approfondimento, sì, della sera, sì. È molto bello questo ritmo che lui fa, sì, con anche questa, anche le mani, sì, questa, sì, è molto bello questo ritmo che lui dà naturalmente alla trasmissione. Questo ritmo cadenzato, molto bello naturalmente. Dai, che funziona, dai. Cioè, cos'è che ti piace di Spadalino? Cos'è che piace al direttore Francesco? La televisione è spettacolo, naturalmente, è effetto, è e catturare l'emotività, sì, naturalmente. Se tu vuoi fare un ragionamento, leggi un libro, naturalmente. Non guardi la televisione, sì, naturalmente. Televisione è SCT di spettacolo, Guy Debord, il situazionismo. E tutti dicono devi fare cultura, dai! Non fa ascolto, dai! Che noia, la cultura, i libri in televisione, dai, noioso, dai. La realtà, cioè la realtà. Quei dibattiti inutili in cui uno dice, no, adesso lei mi ha interrotto, dai, che ti ho interrotto, io ti ho accoltellato, non interrotto. Naturalmente, ecco, mi è venuta l'illuminazione, naturalmente, sì, per cambiare il talk, sì, show, la noia della routine, sì, del, sì, talk show, sì, in cui, sì, al massimo la gente si offende e si insulta. Sì, al massimo. Io naturalmente ho pensato ora a un nuovo grandissimo format che presenterò a Salini, naturalmente, sì, alla Rai, un nuovo grande format, sì, che si chiama Il Pugnale, naturalmente. Ogni ospite all'ingresso del talk show, dello studio, verrà dotato di un pugnale, no, di un'arma, naturalmente. E quando il dibattito si infiamma, naturalmente, sì, anziché quella solita fastidiosa del parlo prima io, parli prima tu, mi non lasci finire, sì, naturalmente, sì, sì, e allora prendi un coltello e glielo spara nella pancia, naturalmente. Questa è l'evoluzione del talk show, del dibattito, capito, però. Dai, però mi sa che non passa questa come cosa, naturalmente avveniva all'epoca dei romani, naturalmente, sì, sì, sì, in cui i dibattiti potevano finire nel sangue, è la, sì, vita, la realtà, la realtà, sì, la realtà, sì, la realtà. Ho capito, mi sa che non passa, però, dai, fa ascolto, però, fa non ascolto, fanno niente, dai, farebbe molto ascolto, naturalmente. Beh, un accoltellamento in diretta live non ci sarebbe il problema che solo Sanremo naturalmente fa il 50%, naturalmente, sì, sarebbe un 50% assicurato. Naturalmente un 50% assicurato. Chi morirà nella puntata di oggi, naturalmente. Questa è la domanda. Borgonovo Parenzo. Borgonovo. Dai, che funziona. Dai, bellissimo. No, Borgonovo Parenzo, dici chi morirà con quei pugnali? Non è passata la cosa, ovviamente. Non è passata. Hanno bocciato, capisco, naturalmente. Non ha coraggio, questa Rai. Grazie, Francesco. A proposito, Spadalino, vai, Spadalino scatenato con quello che sta succedendo al confine tra Grecia e Turchia, Grecia e Turchia, sta succedendo, ma incredibile, ma la cosa pazzesca, posso dirti, prima Turchia. Di Spadalino, posso dirti sulla una cosa, cartina geografica, che adesso l'Unione Europea fa il tifo per la Grecia, che giustamente giustamente fa il tifo per la Grecia, perché quelli, i turchi, ne approfittano di questa situazione per mandarci gli immigrati, quello è un trucco politico, naturalmente. E come direbbe Freccero, e ovviamente fanno il tifo per la Grecia, dunque non condannano nemmeno la Grecia, che fra poco inizierà a sparare sul serio, già hanno sparato una volta. Gli ellenici si difendono, speronano le navi dell'ONG e fanno bene, speronateli, quei falsi profughi. Sì, la Grecia fa bene a difendersi. Molti avranno visto quel video satirico. Abbasso lo champagne. Viva l'Italia, viva il nostro tricolore. Che c'entra? Me ne frego dei francesi. Ma non sono me i francesi. Me ne frego dei transalpini. Ma cosa c'entra? Non sono i francesi, ragazzi. Fa una confusione. Ma lo sai che anche Giordano è impazzito contro la Francia? Ma cosa cazzo c'entra la Francia? Ma voglio dire, l'amico Giordano, io capisco la necessità, per carità, magari piacerebbe anche a me fare l'inferno contro i francesi, buttare lo champagne per terra, pisciare sullo champagne. Ha buttato lo champagne per terra? No, non lo so, no, dico così, cioè gli do un'idea anche. Poi magari ha detto che sono dei miserabili i francesi, ma non sono i francesi. Ma come si permette? È una televisione privata francese. Ma come si permette di generalizzare così? Ma esatto, ma che vuol dire? Non contenti di aver sfasciato tutto e minacciato i medici, il giorno dopo sono andate davanti alla caserma dei carabinieri e, sfidando lo Stato, pum pum pum pum pum pum, la stesa, gli spari in aria per sfidare lo Stato. Arrivano i francesi, guarda. Anche qui generalizzazione, che non sono i napoletani, sono dei criminali, non i napoletani. Vabbè, quello però è legittimo quello che ha detto in questo caso, dai. Ma sì, è chiaro, persone napoletane, non è che dia tutto il popolo napoletano. Ma è il maestro delle generalizzazioni, dei luoghi comuni. Senti sta roba di Giordano, senti. Allora, sapete cosa vi dico io, cari amici francesi? Cosa? Ve lo dico in lingua, così magari capite. Dimmi, amici. Vous êtes misérable! Misérable! Misérable! Con la clac dietro, miserable, miserable, miserable. Mi dispiace, lo diciamo qui, fuori dal coro, perché altrimenti non ve lo dicono. Con chi parlerà di coronavirus, secondo te? Dai, parliamo con di coronavirus. No, aspetta, parliamo di coronavirus, vai. Ferma, eccoli, la bandiera dell'Europa. L'Europa è un comitato d'esecuzione per il nostro cibo italiano, riso, pomodori, olio, tutte le cose. Scusa Mario, avete voluto la comunità europea? No, io no. Luigi da Milano, vai. Quello era Vissani, però. Sì, era Vissani che c'era due pomodori, olio sotto attacco, avete voluto l'Europa, tutto un discorso di Vissani. Ma non è sotto attacco il pomodoro, cosa dite? Dai. Vai, Luigi, dimmi. Spero di non alzare la voce perché devo fare. Ma dico, cioè, forse le parole di quel papà, forse, sono l'unica cosa salva che si può tenere ferma. Cioè, quel papà ha perso un bambino di 15 anni, un ragazzino, certo, chiamiamolo ragazzino, certo, di 15 anni, ok? No, allora lui dice sei un vigliacco, ma ha ragione, perché tu sono tre giorni che comunque a dire io sto dalla parte, tu prendi una posizione, però davanti a lui cosa è che vai a dire? Dice, ah, no, saranno i giudici che diranno. Ah, davanti a lui. Sono tre giorni che tu stuzzichi le parti intime delle persone, no? Stuzzichi la pancia, se no le parti un po' più basse, dicendo io sto con. No, questo amico paese, mio. Allora, devi stare tranquillo, paese, Luigi. Devi stare molto tranquillo. Devi stare. No. Questo paese ci ha dimostrato che non esistono guardie e ladri, sai? No, qui c'è un ladro e c'è una guardia. Qui c'è un ladro e c'è una guardia. C'è uno che è stato. Un giustiziere. Magari che ne sai tu? Cosa ne sai tu? No, no, Luigi, a parte che stai parlando dal viva voce, stai parlando dal viva voce o dall'auricolare innanzitutto, prima. Stai parlando dall'auricolare o dal viva voce innanzitutto, primo. Prima cosa, per cui togli. No, togli questo cazzo di viva voce. Oh, allora, prima cosa questa, prima cosa, non è questione di qui c'è una guardia. Qui c'è una guardia. Lascia perdere l'ordinamento giuridico. Vai a, no, vai a parlare a forum. Vai a forum. Non mi interessa. Della verità. Ma lascia perdere. I processi si farà. Verità. Ma quello lo sappiamo. Ma è scontato. Questo paese. Questo paese. Ah, questo ti ricordo, paese, la 1 bianca. Paese. Ti ricordo Aldo Franco. Che c'entra la 1 bianca e casi particolari in cui c'erano dei criminali all'interno delle forze dell'ordine? Che c'entra? Cosa c'entra la 1 bianca? Ma è chiaro che ci possono essere dei criminali all'interno delle forze dell'ordine. Chi dice il contrario? Ma questo che c'entra col fatto che uno è stato rapinato in mezzo alla strada a Napoli e ha reagito? E che ne sai che non stava scappando e questo gli ha sparato? Che ne sai? Ma guarda, cosa ne sai tu? Sì, perché scappando. C'eri tu, eri là. Scappando, eri là, scappando, stava scappando si adesso. Fa, è stato. Processo, si accerta la verità. Sì. Negli Stati Uniti, il paese più civile del mondo. Negli Stati Uniti manco si apriva il processo. Manco si apriva il processo. Manco si apriva. Manco si apriva il processo. Alberto, esatto, Alberto, provincia di Messina. Alberto, provincia di Messina. Alberto, provincia di Messina. Vai, Alberto, dimmi. Dimmi. Pronto? Dimmi Alberto, dimmi. Dimmi. Dico, io volevo dire una cosa. Se il carabiniere avesse avuto un pochino più di cervello, nel senso fosse stato più adulto, mentre avrebbe rischiato la vita, se la pistola fosse stata vera, il napoletano e il ragazzino cosa faceva? Non lo so, che se come, quando, se che c'è. Puoi uccidere una persona, indipendentemente da tutto, puoi uccidere una persona per non dargli l'orologio. Ma che ne sa, se fosse stato più adulto, ma cosa vuol dire? Ma che ne, sappiamo di quel, per farlo, ma che ne sappiamo? Quello là ha detto, tramite l'avvocato, ha detto che si è sentito aggredito, minacciato di morte, minacciato di morte, con una pistola puntata sempre alla tempia. La pistola fosse stata vera. Ma quello fa il carabiniere, non fa il giornalaio, non fa il giornalista. A 23 no, anni fa il carabiniere, ma tu rischieresti la vita. Ma non lo so, ma sono domande vaghe. Ma sono domande vaghe, io non sono. Ma io non ce l'ho, ma io non ce l'ho la pistola. Non ce l'ho la pistola, per cui non ce l'ho, per cui no. Ma se a me mi chiedono con una pistola, mi chiedono un orologio, se con una pistola. Se la pistola fosse stata vera, il ragazzino di 15 anni, il ragazzo di 23 anni cosa faceva? No, magari crepava pure lui. Ha voluto rischiare pure la vita, pensa. Vabbè, c'è gente che magari per proteggere la fidanzata, perché magari la fidanzata è in pericolo, pensa di essere in pericolo la fidanzata. Comunque ragazzi, la realtà è questa, che tu dalla tua poltrona o dalla tua macchina stai giudicando un signore cui hanno puntato una pistola alla tempia insieme alla fidanzata. Pistola alla tempia. Pensi quello, che sai, se e ma come vita, se, e soprattutto rischiava la vita, è un se ragazzino ma di 15 anni, come perché può ammazzare un ragazzino di 15 anni per un Rolex, Luigi dalla provincia, per non dargli un orologio indipendentemente Alberto, da tutto. Alberto, ma quello che c'è, non puoi sapere in quel momento se quello là ti vuole chiedere il Rolex, se ti vuole sparare per un altro motivo, quello fa il carabiniere, non lo sai. Gli ha chiesto l'orologio ma non puoi sapere quello là se è uno disturbato, se è uno drogato, se è uno, se è lui il ragazzo di 23 anni. E allora avete ragione voi, in quel momento la pistola, no, gli spara addosso ed è stato bravo. No, ma avete ragione, bravo. Tu e quello di prima. Se il quindicenne fosse stato, se sì, la pistola del quindicenne fosse stata vera, secondo te il carabiniere che fine faceva? Non lo so, quello non si può dire. Ha voluto rischiare immaginare pure la vita lui. Però quindi Alberto, Alberto, posso, uno che rischia la vita per un Rolex senza cervello, hai già dato una sentenza. Cosa, secondo me è un imbecille. D'accordo, imbecille senza cervello. Noi sappiamo solo una cosa, che c'è una persona che con una pistola puntata alla tempia cercava di rapinare un signore. Lascia perdere che è un carabiniere. Questo qua cerca di difendersi. No, vita. Questo qua okay, non lo sa nemmeno se è una rapina o un'altra cosa. Si vede una pistola puntata alla tempia. Fosse stata una persona più adulta, professore, me non in quei momenti lì la razionalità va a farsi benedire. Fermi tutti. La zanzara. Oh no, la mucchina è finita. Ci penso io, va. Ecco mucchina. Già la usavo, ma adesso di più. Che tutto questo allarmismo che stanno dando, e la gente si sta provvedendo di tutte queste cose, ma basta lavare le mani, secondo me. Non ho preso niente, né mascherine né niente, voglio morire. Voglio morire. La gente già lo usavo, ma adesso di più. La mascherina no. La mascherina no. Già lo usavo, ma adesso di più. La mascherina no. Io mangiato le cose quando stavo con le cose, polpe, pesce. Prince. Per la tipa che non riesce a venire masturbandosi, si deve assolutamente aiutare col porno, deve eccitarsi e poi dopo masturbarsi. Una volta che avrà interiorizzato quali sono le scene, le cose che la eccitano di più, potrà usare soltanto la fantasia. Ti capisco, amore, persona come te capisco benissimo. Allora ragazzi, comunicazione che mi viene dalla Salaria, da Susanna della Salaria, caro Parenzo, qui sì. È anche il bollettino ogni tanto delle sì. Nostre prostitute preferite, quelle che sono nella nostra top 10, diciamo, no? Si può dire così, top 10. C'è un ristoratore pugliese qui a Milano che frequento spesso che dice top 10. Che ti ospita questo gratis è top 10. Nel suo no, ristorante, no? Mamma mia, sempre gratis. Tutto gratis, tu secondo me. Sei te. Così, tu. Allora, hanno bruciato, purtroppo questa è una notizia, dopo le costole rotte, anche la baracca bruciata, hanno bruciato la baracca. Ma chi sono stati? Che cazzo, sapete che a Susanna si era costruita, ce l'ha raccontato più volte, questa baracchetta lì sulla Salaria, no? Vicino dove era una volta Sky, da quelle parti lì. Hanno bruciato la baracca, lei dice che ce l'hanno con lei, ma io non credo che sia così. Spero che non sia così. Quindi tu sei d'accordo con la baracca abusiva, però almeno in questo caso. Baracca abusiva, mica viene in mezzo alla sterpaglia, sta. Che in baracca abusiva. No, io sono d'accordo con te, io sono sempre stato figuriamoci. Adesso tu mi vuoi mettere contro Susanna. Quindi tu sei a favore della baracca abusiva. Ma certo abusiva che di Susanna. Sono a favore della baracca abusiva di Susanna, ma quella serve per lavorare, certo. Mi fa piacere, mi fa piacere. E poi dice che non lavora più per il coronavirus. Per paura lei del coronavirus. Lei dice che non va più, nonostante le costole rotte, per il coronavirus. Là. Che ti devo dire? Poi è pure influenzata, tutte le disgrazie. Però tirati su di morale, amica mia. Non si riprenderà come al solito. Ti sei ripresa da tante cose, ti riprenderai pure dalla paura del coronavirus, dalla baracca bruciata. Te ne metti su un'altra. Aiutate Susanna a tirare su un'altra baracca. Più te ne bruciano e più vengono ricostruite queste baracche. Baracche una puttana illegali, deve esercitare ovviamente. Liberamente il proprio mestiere. Baracche illegali, ovviamente. Ma non è illegale. Tu sei a favore della baracca illegale. Susanna, di qualcosa a Parenzo, io non ne posso no, più. No, ma io sono a favore, sei tu che sei per la legalità corrente alternata. Allora, a proposito di transessuali, no, perché Susanna non è una transessuale, di prostitute. Cioè, a proposito per via dell'ora, poi mi dici, dell'ora. A proposito. Come sai, c'è una nostra prostituta, nostra tra virgolette prostituta da Codogno che abbiamo già chiamato la settimana scorsa. Siccome le cose si sono un po' aggravate, la nostra amica Eva da Codogno. Buonasera, buonasera, buonasera. Buonasera ragazzi, bentrovati. Come dalla state? Zona rossa. Non c'è male, rossa. Amica mia, non c'è male. Senti, no, noi facciamo la domanda a te in realtà, perché sei tu che ci devi dire come va. In questi ultimi 3-4 giorni, dall'ultima volta che ci siamo sentiti, è passata quasi una settimana. Le cose vanno peggio, vanno meglio, clienti zero sempre? Allora, si è passato qualche giorno, sì, oddio, devo dire che la situazione qua è sempre tragicomica, non dico tragica perché è meglio dire tragicomica, nel senso che comunque in giro pullula, sembra di stare a Miami, gente che si ferma fuori dai tavolini, si parlano, si sputano in faccia a vicenda mentre si parlano, senza mascherine, uno scenario apocalittico. Questo non credo che sia vero, dai, tu, adesso, non scherziamo su. Ma non sto scherzando, c'è in giro, c'è murato di gente in giro, ragazzi, non sto scherzando. Ma tutti quanti dicono che Codogno Codogno, la città fantasma. Il sindaco di Codogno dice che sono in una situazione drammatica. Tu stai dicendo che la gente è in giro tranquillamente. Dai, no, non sto dicendo che le attività sono chiuse. Su quello è un danno che sarà un danno irreparabile. Ne siamo tutti. Ma la tua attività, come va la tua attività? Ah, la mia? No, ma di merda, ovvio. Tu la fai, ripetiamo, a corrente alternata perché godi di un vitalizio particolare. Sì, sì, di questo privilegio. Cioè, c'è un signore che a un certo punto credo che abbia avuto a che fare con te in qualche modo. Adesso non mi posso permettere di dire che forse è un ex fidanzato o un ex frequentatore della tua azienda, diciamo, che non è una. Dimmi. No, sono signore, mi sembra di stare con mio nonno. No, allora, un ragazzo, innanzitutto. Un ragazzo, sì, facoltoso, evidentemente, no? Facoltoso, certamente. Non un degli ultimi spiantati, ovviamente. No, certamente. Gli ultimi erano tutti poveracci. Gli ultimi ragazzi, nel senso, gli ultimi tuoi fidanzati, se così si può dire, fidanzati. Chiamiamoli fidanzati, chiamiamoli. Frequentatori, cioè, scopamici. Chiamiamoli coglioni, dai, che facciamo più bella figura. Benissimo. E quest'ultimo, quell'ultimo coglione che ha avuto la sventura o la fortuna di frequentarti, ti mantiene ancora oggi? Sì, diciamo che è una persona di buon cuore, sottolineo sempre cuore. Dico, ecco, ma perché uno decide, dopo essere stato con te, di continuare a darti dei quattrini? Perché ti vuole bene? Perché che cazzo ne so? Hai lasciato un buon ricordo? Era passivo o attivo questo qua, innanzitutto? Allora, questo in realtà era, secondo me, era sessuato, ti dico la verità. Ah, era sessuato. Sì, no, ma comunque è sempre quella la risposta, perché è un coglione, punto, ragazzi. Cioè, però ti dà anche i soldi, però, amico, non dovresti definirlo un coglione, questo qua. No, un coglione con amore, però. Ah, cioè, beh, detto con amore. Lui è un coglione, cioè non è che lo dico solo. Ma perché lo un coglione? Perché un coglione, dimmi. Perché uno che mantiene una come me è un coglione, scusate, ragazzi. Cioè, adesso ma non fa una bella pubblicità, lei. Anche tutto vero, un'auto bella. A me mi fa impazzire, perché è tutto vero, non è falso. È tutto vero. C'è uno che lo mantiene, che lei definisce un coglione, perché lo mantiene, perché mantiene una come lei. Senti, ma il viso tuo, che io ho visto in foto, ma quanto è rifatto il tuo viso? L'abbiamo già detto, ma ridimmelo, ti prego, perché sembra allora, Michael Jackson a un certo punto. Michael Jackson, no, quando arrivi a Michael Jackson è la fine, perché non si torna più indietro lì. Quando arrivi a Michael Jackson, me lo disse sempre una mia amica, ricordati Alessia, Eva, è il mio secondo nome, comunque Eva, ecco. Sì. Ricordati che quando arrivi a Michael Jackson, livello Michael is the end. C'è l'ultimo ritocchino che hai fatto, dove è stato? Allora, l'ultimo diciamo che ho fatto tutto insieme, ho fatto una limatura generale della fronte, dell'arcata sopraccigliare, pure, insieme al naso. Sì. C'è una parte che non è rifatta, signora, una parte che rimane, che è così. La parte è il pendolo, l'unica naturale è... perché poi alcuni che si può ritoccare il anche il pendolo di Foucault. Il pendolo in realtà si può ritoccare anche quello di volendo. Foucault, ti ricordi il libro, il pendolo di Foucault? Il pendolo, sì, no, ho conosciuto dei dottori che mi hanno proposto questo, ma io sinceramente non ho bisogno, perché godo sinceramente di un pendolo bellissimo e sono affezionata al mio pendolo. Beh, d'altra parte, il tuo strumento di lavoro, diciamo, da un certo ma è uno strumento di tutto, di piacere, di lavoro, uno strumento, e comunque ogni tanto quando lo guardo almeno mi ricordo sempre sono un uomo, comunque. Io mi sono sempre chiesto una cosa, cara Eva, in diretta da Codogno, naturalmente, scusa, perdonami il bigottismo parenziano qui, di Parenzo qui, ma una transessuale come te, che ha un'attività, come dire, non continua, ogni tanto ti prostituisci, ogni tanto no, c'hai il tuo vitalizio, fai la tua vita tranquilla, normale, e poi è evidente che ricevi un sacco di telefonate di persone che magari sono molto timorose, quasi terrorizzate da un certo punto di vista di avvicinarsi a te, no? Padri di famiglia, eccetera, eccetera. Però ecco, la domanda è questa: c'è il tempo, per esempio, per masturbarsi? Pure. Questo mi chiedo io. Questa è una domanda che mi sono. Una domanda enorme, questa, certo. Dimmi. Ma il tempo loro o mio? No, tuo. Ah, mio, a voglia, cioè, assolutamente. Io c'è una pratica che prediligi? Assolutamente, ma io anche 5-6 al giorno. I miei amici non ci credono, ma io a voglia. Ma stai dicendo sul serio? No, ragazzi, sul serio. Io sono una persona terribilmente... Io non ho scheletri, cioè nel senso... sono una persona molto... Sono un libro aperto, ecco. Cioè, per cui tu arrivi anche a 5-6 al giorno? Sì, quando mi annoio sì. Senti, la vita a Codogno, allora, adesso al di là della questione della gente che si sputa in faccia, che non credo naturalmente. No, vabbè, nel senso che parlano vicini, intendevo, non è che tu dici continuano a parlare vicini lo stesso, diciamo. Sì, perché comunque ma tu esci da casa o no? Io, come dicevo l'altra volta, io esco soltanto, io odio passeggiare, io sono un po' viziata, io mi sposto solo con la macchina e sì. non amo queste passeggiate in mezzo ai campi, perché la camporella l'ho abbandonata già dai tempi delle medie, sì. Qua è pieno di campi perché giustamente siamo nella bassa Lodigiana. E in centro quindi... non vai, non mi pari terrorizzata dal coronavirus però dalla tua voce. No, non me ne frega proprio niente, ve lo dico, cioè veramente non me ne frega più niente, perché all'inizio mi hanno messo addosso una sorta di terrore, come penso a tutti. Dopo il terrore si è tramutato in incazzatura, perché comunque adesso hanno veramente un po' fracassato i maroni. Ma con che cosa? Beh, alcune cose sono alcune cose sono necessarie. Non ti viene ogni tanto la cosa e dici: vabbè, scappo dalla zona rossa, esco dalla zona rossa. Ti arrestano, eh? Ma sarebbe anche una bella esperienza, almeno faccio qualcosa di diverso, una notte in galera magari, non lo so, mi piacerebbe, o magari conosco qualche militare che mi blocca, non lo so, ti dà una bella ripassatina, diciamo, una bella... sarebbe anche ecco, cosa ma le sveltine carina. Senza pagamento le fai ogni tanto, diciamo, di quelle proprio di fatte perché ti piace uno? No. Sì, a voglia, sì, beh, deve essere veramente top però, Deve essere top. Deve essere top class, perché altrimenti... E devo essere anche abbastanza ubriachella, sì, perché sennò scatta il tariffario, perché comunque sono, sai, come si chiama, deformazione professionale. Beh, no? Certo. Senti, ma a psicofarmaci come andiamo in questi giorni? Piena murata. Infatti mi dicevi, appunto, se non vado in centro. Vado in centro quando devo andare in farmacia, che le mie farmaciste mi adorano, io adoro loro, sono tanto carine. Quando mi vedono dicono: eccola che è arrivata. Eccola che è arrivata. E andiamo. Preparano i composti, diciamo. Preparano i composti. No, ma io le amo, perché poi comunque stanno facendo un lavoro che comunque si stanno... certo, ma che scherzi. Per salvarci il culo a noi, perché comunque le farmaciste... Quante esce al giorno? Pochissimo, allora. Pochissimo. Ah, io pochissimo. Io poi sei tappata comunque... in casa. Okay, perché sì, clienti sì. Da quando è iniziata la zona rossa? Zero. E rompono i coglioni. Secondo me si divertono masturbandosi telefonicamente. Ma non vengono, ma hanno paura di venire. Cioè di venire da te, diciamo, di venire da te. Allora, di bussare, di citofonare, di prendere appuntamento. Secondo me, allora, gli unici che ho visto, che anche qui è un mistero, sono quelli pippati. Quelli sono temerari. Che ma sono venuti o no? Ma allora, quanti clienti hai fatto da quando è iniziata la zona rossa? Ma due? Facciamo due, tre. Due. Sì, ma che poi sembra quasi un passatempo, no? Perché sei talmente stufa che dici: ma sì, sono qua in casa, cosa ho da fare? Niente, facciamoci sta serata. Vabbè. È più un divertimento, diventa quasi, non diventa più un mestiere. Sì, perché comunque sei sempre qua da sola. Che... Vabbè, Eva, ti abbraccio, a presto. Baci. Ciao, baci, grazie, baci, ragazzi. Baci ovunque, tranne che sul pendolo. Arrivederci, signora. Ciao, ovvio, mai. Ciao. Per carità. La Zanzara. Siete quattro froci. Eccoli, ma venite a trovare la sta ragazza, ma no? Ma venite a trovarmi, no? Che grappolo dei froci. Ho saputo che è morto Pippo Baudo anche. Cosa? È morto Pippo Baudo. Quando? Oggi, 2 ore fa. 2 ore fa è morto Pippo Baudo, lo diciamo in anteprima. D'infarto, sì, è possibile, perché Pippo Baudo stava molto male, era stato ricoverato 2 volte in clinica. No, è possibilissimo. Fatemi sapere di questa cosa, perché non voglio dare notizie false, assolutamente. Appunto, hai già date praticamente. Signor Richard Benson. Pezzi storici di Riccardone, come si chiamava là? Ricciardone. Signor Benson. Un tassista di Milano mi scrive: non lavoro da 10 giorni, va bene, è normale, come molta gente è normale, purtroppo. E a questo padre non interessa nulla della morte del figlio, sta parlando della vicenda di Napoli, sfrutta il momento come nel dopoguerra, che faceva i figli per mandarli a lavorare. E se mancava uno, amen. Mi hanno rapinato a Milano 10 giorni fa. Se avessi avuto una pistola li avrei fatto saltare la testa. Invece ho subito inerme. Chi giustifica il ragazzo è un coglione. Tu mi porti via il mio sudore, il cibo per i miei figli, muori, punto. Ma che vuol dire? Se vuole, domani lo chiamiamo privata, questo tassista. Emilio da Casal Pusterlengo. Vai Emilio, vai. Ah, quello che c'è scritto prima alla mail, sì, Emilio, dimmi. Sì, ciao Davide, ciao Giuseppe. Ciao, buonasera. Come si vive al di là della nostra amica transessuale, che naturalmente vive una vita tutta sua, che a Codogno, no, tu a Casal Pusterlengo sei isolato praticamente da quando è iniziata questa vicenda. Esatto, esatto, e molte cose che ti sento, che ti dicono, insomma, sembra una cosa abbastanza semplice, invece non lo è. E allora, secondo me la cosa, diciamo, principale è sbagliata. Tu non sei malato, no? Cioè non sei infettato, no? Io no, però ho parenti che lo sono, sì. Ho anche avuto una zia che è deceduta, aveva delle complicazioni, perché comunque adesso... Aspetta. Sì, sì, ma lei era già malata di qualcosa? Era, sì, era stata ricoverata per un, diciamo, tipo ictus, una cosa del genere, poi... Ma sembra che poi adesso tendono un po' a non dirle queste cose, però ad esempio Castiglione d'Adda, che è molto vicino a casa, pur vengo sempre nella zona rossa, ha delle... in tre giorni sono decedute, penso, 10 persone, quindi poi cominciano a dire sì, aveva delle complicazioni prima, però insomma qua la cosa non è... Ma allora, la cosa è iniziata male, ma sai perché? Perché praticamente quando... ci hanno messo in zona rossa, i primi tre giorni non avevamo blocchi, però non avevamo viveri. Quindi, dunque la gente è uscita. È uscita, Piacenza, Lodi. No, ma che la situazione all'inizio sia stata gestita in maniera assurda, questo è abbastanza evidente, sia nei voli che facevano scalo che venivano dalla Cina, di qualsiasi persona, cinese o non cinese, sia appunto nella zona rossa, che era rossa per modo di dire, perché sono entrati giornalisti, sono uscite persone, eccetera, prima di mettere un blocco, diciamo, abbastanza duro. E poi, tra l'altro, allora all'inizio... Ma prima non si poteva sapere, però scusami. Ho capito, però non sto dicendo che ha sbagliato qualcuno, esatto. Però sto dicendo semplicemente che la realtà, prima proclamano la zona rossa, dopodiché per i primi giorni si poteva fare il cazzo che si voleva. Lo sta dicendo uno che sta là, Emilio, dimmi. Avevano chiuso tutti i supermercati, quindi ci andava a Piacenza e allora di fare spesa. E dunque chi era infettato ha infettato a sua volta altre persone. Che poi all'inizio, ti dico anche la verità, era... prendiamola un po' così, è anche bella la cosa, perché ho visto, sembrava le vacanze di Natale. Sembrava un film, I Sopravvissuti, film, te lo ricordi? Anni 70, fine anni 70, sì, I Sopravvissuti. Comunque, invece di Natale, che poi magari i figli sono via, i genitori, la sera si stava uniti, io anch'io ho una figlia, sì. Sono separato, la sera mi mettevo lì, guardavo i film e tutto, era una cosa carina. Senti, ma che cos'è che nessuno ha raccontato in questi giorni, che tu ci vuoi raccontare? Allora, ti posso dire che ad esempio alcuni blocchi comunque si potevano diciamo ma superare. Anche adesso modo. Si possono superare i blocchi? Allora, adesso un po' meno, perché però ci sono delle stradine, delle cose in cui, ma soprattutto non tanto per uscire o per entrare, ma tanto per far girare, diciamo, dei beni che poi non sono proprio primari. Cioè, mi stai dicendo che c'è un traffico di qualche cosa? Esatto, esempio, all'inizio poteva essere l'alcol che mancava, perché comunque essendo tutti i bar chiusi, i ristoranti chiusi, in effetti c'era gente che voleva bersi le sue birre, voleva bersi la sua grappola, e quindi quello, ma poi anche dell'altro, insomma. Cioè droga? Esatto. Cioè, tu stai dicendo che si è creata in questi giorni, si sono create delle strade alternative per far passare stupefacenti? Sì, perché comunque la mancanza c'era, nel senso che comunque le scorte mancavano. Ma tu lo sai perché lo hai fatto o perché te l'hanno raccontato? Lo sento Dio, insomma, lo raccontano. Poi... in questo momento com'è il tuo umore? Quello della tua famiglia? Allora, tu sei separato? Il tuo umore qual è? Quello del sindaco di Codogno o il sindaco di altri paesi che si sentono completamente isolati, abbandonati, almeno l'abbiamo sentito in questi giorni? Oppure accetti con rassegnazione questa situazione aspettando? No, ormai non lo accettiamo più. Guarda, ti do che vuol dire non lo accettare più? Cosa vuol dire non accettare più? Cioè, sono regole che valgono per tutti, purtroppo. Però ti spiego, ad esempio, una notizia di pochi giorni fa che non l'ho sentita dire, che è solamente sul cittadino di Lodi, è stata scritta. C'era questa persona, un negoziante, che aveva aperto il suo negozio, ma non per vendere, per raccogliere firme per questa ZES, che sarebbe una zona economia speciale, cioè per richiedere poi i trattamenti speciali, ok? E praticamente sono arrivate due pattuglie della finanza di Milano, scusa, perché adesso abbiamo anche quelli di Milano, e gli hanno fatto un verbale. Cioè, che cos'è che non sopportate? Non ho capito, cos'è che non sopporti tu? Ma non sopporto la cosa. Allora ti dico, sembra che noi possiamo infittarci come vogliamo, perché alla fine comunque adesso la gente la mascherina comincia a togliersela, ci si trova quando si vuole, ci si trova a casa a giocare a PlayStation. Cioè tu dici di quello che succede all'interno della zona rossa non frega un cazzo, no, alla fine, cioè voi potete morire tutti, potete morire tutti, importante che non infettate quello, non allora, infettate ma non è così. Beh, però la sua sensazione è quella, ragazzi, io... ma no, ma perché noi non abbiamo coprifuoco, noi possiamo andare e trovarci anche 10 persone in una casa perché ci stanno tutte le barre a giocare a carte. Beh, ma questo sta al buon senso vostro, però lui sta dicendo una cosa, ma no, zona sta dicendo rossa, una sciocchezza, no, non sta dicendo una sciocchezza, lui sta dicendo all'esterno è tutto un blocco, dunque non fanno uscire per non infettare gli altri, ed è giusto. All'interno, lui sta dicendo, all'interno le persone che possono anche non avere il cervello, non possono anche non essere particolarmente lucido dopo 15 giorni di rottura di coglioni. No, ma non è lucido, infatti, scusami. L'indicazione vale per tutti. Noi, ad esempio, su Roma abbiamo cancellato, ma lui non ti sta dicendo che è giusto, nostro malgrado, la festina di compleanno di mio figlio piccolo. Perché non sta dicendo che è giusto. Ma non sta dicendo che è giusto, sta dicendo quello che succede. Se tu vivi nella zona rossa è non assurdo. Lo puoi sapere. È assurdo trovarsi in 50. Ma non si trovano in 50, basta. No, faccio per dire, o anche appunto. Il decreto è solamente non esci e non entri. Allora dovrebbero fare come hanno fatto in Cina, dire no, state a casa, facciamo un coprifuoco. Barricati in casa, per gli over 75 il suggerimento è esattamente questo. Ma non è quello, ormai tutti là dentro questo. Possono essere infettati, molte persone, no. Ciao Emilio, ti abbraccio, ciao. C'è Bracconeri che continua a mandarmi Bracconeri è un disperato. Fabrizio Bracconeri continua a mandarmi un messaggio che è questo: siamo un popolo di coglioni, dobbiamo scendere in piazza. Chiama. Non voglio sentirlo, Brac. Pronto? Fabri, che è successo? Perché sei incazzato? Perché sei incazzato, Fabri? Dimmi, c'è anche Parenzo qua. Ma te pare normale che scuole chiuse, scuole aperte, non si capisce un cazzo. Questo è vero, non si capisce un cazzo. Questo aspettiamo. Io non capisco perché la gente non scende in strada e via bastonate. Manifesta incapacità. Questi stanno manifestando l'incapacità governativa. Ci mancava questo qua. Il primo di abbastonare sei te, Parenzo. Ci mancava. Abbastonare prima te che ti nel caos. Nel caos ci mancava questo qua. Però, la parola, ma la rubrica. Ce l'avete fatto voi perché avevano avete rotto i coglioni. Avete rotto i coglioni. Scusami, Cruciani, ma che cos'è questa? Io sono d'accordissimo che le culture vanno rispettate. Se mangiassero i pipistrelli, i cani, i gatti, a me non mi frega niente di quello che fanno loro nella loro vita privata in Cina. Ma non potete rompere i coglioni. Se qui arrivano i ragazzini che sono stati in Cina, andavano messi in quarantena i genitori, chi veniva dalla Cina. Ma sono gli italiani che hanno infettato, ma che c'entra? Ma avete chi? Ma le infezioni sono anche degli italiani che sono stati in Cina. C'è un presidente del consiglio che non sa che cazzo dire e che cosa fare. No, ma io voglio dire, scusami, cos'è questo? No, lui è incazzato perché dice che l'origine di tutto è l'arrivo e che non hanno bloccato gli arrivi all'inizio. No, sono i cinesi. Quello che voglio capire è che cos'è questa, una nuova rubrica, Cruciati, la parola all'idiota? Per capire, ma è la nuova rubrica. La parola all'idiota. Ma perché Bracconeri non può parlare? Non ho capito. Cioè, tu hai impedito, ma dice delle follie. Il tuo pensiero è idiota. Io non mica dico che sia un giornalista di merda, anche se lo penso, lo dico. Qui è una situazione ingovernabile da parte di questi incapaci. Ci avremo tre persone. Oh, ma sai che se io fossi stato il ministro Di Maio ieri con la storia della pizza, ma sarei andato a fiaccarci in culo tutti i francesi che stavano in Italia. Un bel modo proprio, bello. Si è mangiato. Bello quello che fanno loro, solo quel minchione di Vaura ha difeso quel francese. Anch'io, veramente. Ma io dico, ma un po' d'amor proprio. Voi non ci avete la dignità di difendere una nazione che vi ha dato la vita, che vi sta dando il futuro. A te, i tuoi figli, a tua famiglia, lo stiamo distruggendo per questa cazzo di mentalità di merda che ci avete voi? Quella cosa della Francia, però, posso dirti, è una cosa di satira, caro Fabrizio. Cioè, è una cosa di satira, dai, non esageriamo. Tu invece che avresti fatto? Dici che Di Maio doveva andare a prendere a calci in culo addirittura i francesi. Che doveva fare Di Maio? Cioè, cacciavo subito via l'ambasciatore. Subito, cioè, subito via la Roma, subito. E dico, vattene a far culo subito a casa tua. Ma che modo è? Ma che cos'è? Con la testa piena di cenere, chiedi scusa in ginocchio, ti fanno rientrare in Italia. Se no, te ne butta giù pure la torre pelle abbastonate col cricche, con la chiave inglese. Da buttare giù la torre pelle. Ma scusami, però. Buttare giù la torre pelle. Ma chiesto, ma è un involuto. Però ma è una scena. Non sono involuto. Ma sei preistorico, sei. È trattato come una merda dal mondo. La Tunisia ci ha chiuso i ponti e siamo pieni di fila la mignotta tunisini, dei marocchini, dei tutti i parti, i peggio parti del mondo. Mo stanno a romper cazzo ai confini della Grecia. Ma questo è un concentrato di stupidità. Ma perché tu che facevi? Che faresti al confine della Grecia, tu, là dove sta succedendo il casino? Che faresti tu con questi guardi? Con i bastoni, abbastonate, no con le armi, perché con i abbastonate. L'hanno già fatto. Questo l'hanno già fatto. Questo l'hanno già fatto. Questo bastonate l'hanno già fatto. Non dovevo più parlare. Scusa, ma mi spieghi una io voglio capire una cosa. No, tu non vuoi capire. Tu non vuoi capire. Spiegami un attimo. Perché un marocchino deve andare in Turchia per entrare in Europa? Di portarci sua. Per quale motivo? Che ce l'ha di fronte l'Europa, che ce l'ha in Spagna. Perché non va là e viene da questa parte? Ma si chiamano, ma ignorante di uno scemo che sei, zucca vuota piena di sale. Si chiamano migrazioni perché sono le famose rotte dei migranti, le rotte dei migranti. Ma studiati qualunque cartina. È diverso. Mamma mia, zucca, sei una povera zucca vuota piena di sale. Zucca vuota perché tu mi devi dire rotte di migranti. Ma a me dispiace perché fai la figura dello scemo. Fai la figura dello scemo. Fai la figura dello scemo. Fai la figura dello scemo. A te, a te, qui hanno rotto i coglioni tutti. O chiudiamo questa storia con tutti. Tu vuoi chiudere? Questa vuoi chiudere? Di merda che non funziona niente. Ma io so 18 anni che lo dico, no, è oggi. Ma ti rendi conto che cazzo d'Italia? Ma scusa, uno che va in un bar difeso da uno che gli spara sul carabiniere. Ma distrugge gli ospedali. Avete rotto i coglioni. Ma tu, scusa, io carcerato pure il padre ieri. Come carcerato? Va carcerato. Come va carcerato? Perché non è stato capace a far padre. Cioè il padre del ragazzo 15enne morto va carcerato, secondo te? Ma che, perché può dire quelle cose un padre? No, il carabiniere è un assassino, mi tira ma uno. Ma senti cosa dici tu? Ma senti cosa dici tu? Bastonare, sparare. Senti cosa dici tu? Io sparare non ho detto bastonare, che è bastonare, cosa. Bastonare, ma sì, ma no, bella. Ho capito, ma tu il padre. Ma gli allevate, vedevo via. Perché ciao. Questo veritate, se non capite le che regole figure, di civiltà. Che figure di merda che fai, che figure di merda. No, sul carabiniere è incazzato, giustamente, perché stanno facendo passare il padre come una sorta di questo ragazzo. L'eroe, il padre d'eroe che ha detto che lui non sapeva, è andato lì perché non sapeva che quelli 150 persone hanno devastato l'ospedale, cioè 150 delinquenti. Uno che va, si mi viene quelle notte, mi chiama la polizia, hanno carcerato, io vado in carcere, devo cacciarci il culo a mio figlio, capito? Non è che dico no, è un bravo ragazzo, perché qui non avete capito, i problemi vanno affrontati. Ciao Fabri, ciao. Ciao. Ragazzi, a domani, italiani! Italiani! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8, ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Questa storia del coronavirus è una questione politica. Ho detto politica e dico ancora politica.